Io però il giorno dopo gambe, non c'è posto. Venerdì prima della festa lo faresti. Tra l'altro ho, gambe a calcetto. Io ho provato a vivere una giornata da organizzatore e come ha notato lui sono impazzito subito. Sono 4 ore da fondi. Siamo in diretta con 30 secondi. Con questi discorsi sul calcetto. Facciamo sabato. Benvenuti, esatto. Risposta di Eme. Intanto benvenuti alla terza edizione della maledizione di Katta. Era la terza. Ora la seconda. No, questa è la terza sessione. Sì. Questa è la terza. Dopo, no, è la quarta. Dopo le speciali Halloween. È la quarta. Due speciali Halloween. Quindi sì. Ho sbagliato a mettere la maledizione 3. Tanto cos'è? Cioè, abbiamo fatto lo speciale diviso in due. No, è giusto. L'altra è quindi sono io, è la cosa importante. No, corretto. Aspetta, lo speciale, abbiamo fatto lo speciale diviso in due. E quindi è la quinta complessiva, ma è la terza della maledizione di Katta come Tycoons and Dragons. E a proposito di questo, vi ricordiamo che noi siamo Tycoons and Dragons e ci potete seguire sui canali social di Tycoons and Dragons, in particolare su Facebook e anche su quelli di RIGDR. E dicevi, Sceo, che come per il calcetto? No, è stato interessante perché io ho detto, dai, facciamo sabato, prima delle feste. Qualcuno vuole venire a un calcetto sabato? Esatto, stiamo reclutando. Qualcuno vuole venire a un calcetto? Come avrete notato, voi che siete qui, voi che seguite il podcast, volevo dire su Facebook. Allora facciamo prima. Vitto, no, voglio vedere il Napoli alle 3. Ok, va bene, raga, io mi arrendo e vi dite così. Poi hanno detto, no, facciamo il 29. Io ho scritto, guardate che alle 18 c'è Napoli-Bologna, vedete voi. Lui fa, vabbè, la regista la guardiamo dopo. Ah. Io non ho detto niente, ma allora non potevamo fare la stessa cosa questo sì, sabato. Comunque eravamo in diretta sul podcast, ma non eravamo in diretta sul non, puoi sabato non puoi sabato guardarti Parma-Bologna dopo con Ema. Cosa? A teoria sì, ovvio, però non è. Vabbè, ormai è andata. Show. E quindi allora, la prossima fate il 29. Benvenuti anche voi di Facebook. Non lo so. Alla sessione. La telecamera non è là. Sì, la telecamera è lì, ma il microfono è lì. Infatti, posso fare così. Vabbè, dovete girare la bocca. Scivolamento. Ragazzi, eccoci. Allora, questa è la sessione natalizia di Tycoons & Dragons. Come forse potrete notare dal nostro outfit. E giocheremo la maledizione di Katta. Ci siamo interrogati prima se era effettivamente la terza. È la terza effettivamente, ma è la quinta di questa campagna che abbiamo iniziato con gli speciali di Halloween e continuiamo oggi con lo speciale natalizio. E ovviamente siamo Tycoons & Dragons e sapete benissimo che ci potete seguire sui canali social di Tycoons & Dragons e RGDR. Con chi sta parlando? E non lo so, ma ora che ho dato inizio alla sessione, Lasi quando risentirà. Ah, non lo farà mai. Ciao Lasi. Ah, no, è vero, devo presentare i miei ospiti. Di stronzo. Siamo ancora in attesa di Francesco Arcigliacono, ma comunque con me in questo momento. Non dire il mio nome, di un nome finto. Ok, con me è Andrea Giacomanchi da Bologna, insieme a Edoardo Saladino. No! Tipo Aldo Baglio. Ci sono Stefano Gamberoni, Giulio Boschi e il master Enrico Cantabriga, che è rimasto forse agli speciali di Halloween. Che bello, però. A cui do l'introduzione del via. Devi ricominciare con un sacco pieno di regali. Esatto. È vero, dov'è che ci dai gli oggetti magici? Li dovete trovare nel vostro cuore. No, scherzo. Non è ora di telefonare a Lasi. L'avete già bullizzato la... Ah no, ci ha messo sopra il punto. Scusa, ma non può giocare mentre lavora? No, dai. In realtà visto il coso c'è al piccolo di solito in questi giorni. Funziona l'audio. Molto bene. Benvenuti a tutti e buon Natale. Ma non si fanno prima gli auguri, porta non è un problema. Ah no, questo è per il podcast. Chi ascolterà dal 25 in poi, tanti auguri. Molto più avanti. No, però dopo dobbiamo sistemare un po' di roba. Sì. Ma prima o dopo sono andato a dormire? No, ti devo mandare un po' di roba, mi devi dire, non ti ricordi l'ultimo che ti ho mandato. Non venire venerdì sera, se no ti fa sta roba. No, venerdì sera faccio quella roba io. Quando Coso comincia a parlarmi ho detto Coso, sono stato bravissimo. Di qualsiasi persona che non siano tipo io proprio forse. Che possa, sì, scorre a casa e tanto bello. Molto bene, vi ricordate dove eravate arrivati? Ci ricordiamo dove eravamo arrivati? Sì. Cosa? Eravamo all'accampamento dei Rom. Esatto. Quando ho livellato, no? Ogni buona sessione si comincia col riassunto della precedente, se non sbaglio. Faccio notare comunque che questa campagna è fonte di battute razziste come poche. Ma no, siamo da quegli zingari di merda. Sì, esatto. Era esattamente quello che intendevo. Ruspa! Era esattamente quello che intendevo. Un cazzo, condividerlo su Tycoons potrebbero essere un buon E che cosa avete fatto? Arci ha rubato un'armatura. Io ho rubato delle la barattata come la droga. Un piccolo riassunto. Dove l'avete trovato? Dai, facciamo un piccolo riassunto. Allora, nella scorsa sessione, per chi se la fosse persa, allora avevamo intanto già dato sepoltura al padre di Koglionovic. Fatto il braccio. Vabbè. Ma scio, che sfogo brutto che c'ha. Ah sì, me l'avevo fatto. E che cos'è? Natura non ascolti Ligabue. No. Ah, ok. Ti sei tatuato in una cosa di Ligabue. Sì, insieme a mia sorella. Vabbè. Allora, siamo andati a prendere Irina. E voi vabbè, che ci ascoltate, Giulio, non tatuatevi cose di Ligabue. Giulio ha barattato bambini per dolciumi e dolciumi per bambini, ma questo facciamo finta di non ricordare. No, io ho ucciso i genitori del bambino. Anche questo. Facciamo finta di non ricordare. La morale della favola è che siamo andati da Irina, l'abbiamo presa, poi l'abbiamo anche ricordiamo trasportata. Irina, la figlia. Ehi! mi ridai il supporto dell'albero? In realtà è... vabbè, sì, te lo do, però aspetta, fammelo almeno incartare. No, non mi chiedere un merda. No, ho capito, vabbè, beh, è una cassa, magari non gli fa bene. Ma cos'è quello? È il mio albero di Natale da ufficio. Va bene, beh, se lo porto ma così. Ma cioè, nel senso, è una cosa puramente inutile che fa luce. Però tieni presente che era solo tuo vantaggio. Sì, no, no. O aveva qualche segreto. No, è francese. No, è carino. E abbiamo preso Irina. Dopodiché è venuta con noi. L'abbiamo presa. Abbiamo cominciato a camminare. Scero l'ha capita. Adesso con calma. No, sì, ho capito, però... cominciato a camminare. Ma tutto sullo stupro. Verso... no, siete stati invitati a cena da quello che vuole stuprare Irina. E prendere. E Giulio vuole andarci. Noi. Sì, è vero. Non vorrete andare in quella trappola? È chiaro. Quindi. Dopo aver risolto lo scontro col vampiro, perché io ero rimasto. Sì, buonanotte. No, ma è successo un sacco di roba prima. Ma è vero che ci sono cose importanti. Sto dicendo solo le cose importanti. Vabbè, dai, lo faccio io riassunto. E già ridono ancora prima che tu inizi. Tu dove eri rimasto? Di solito è sono efficienti. Alla morte del vampiro. C'è okay. stato il baratto di dolci per bambini. Siamo tornati verso il villaggio. C'era sta la vecchietta che avevamo visto che era scappata. Che bussava alla porta in sta casa. E abbiamo visto che barattava qualcosa. E indicava un bambino. E i genitori davano il bambino. In pratica, poi abbiamo scoperto che vende sti pasticcini che sono una droga. La gente se li mangia, va in estasi e vende tutto quello che vuole. che ha. È una cosa importantissima. Quindi, perché ridete? Quindi Arci l'ha seguita a un certo punto, se ne è fatto dare uno come tipo prima dose gratuita. Ha pesato perché però quante calorie faceva? No, no, perché non l'ha mangiato, si è fatto dare come prima dose gratuita ma non l'ha consumato. Abbiamo evitato che il bambino venisse preso dalla vecchia e l'abbiamo portato alla casa del Koglionovic. O come cazzo si chiama? Koglionovic, ormai questa sì, è la fatta Koglionovic. E mentre loro portavano il bambino lì, io ho ucciso i genitori. Perché ormai erano dei mostri, hanno venduto il figlio, per me doveva morire. Okay. Sono caotico malvagio. Da solo, non l'abbiamo visto. Tanto. Esatto. Okay. Nel tentare di dissuadere e cercare di far passare come loro che si erano coltellati a vicenda con i loro coltelli, ho tirato uno, quindi probabilmente ci sono delle ferite tipo alla schiena precise. E poi col sangue c'è scritto il tuo nome. Magari questo no, però devo sei molto confusa e si capisce che è se uno analizzasse la scena sarebbe evidente. In realtà però tu pensi di aver fatto no, beh, non so, forse un po' di tempo me l'ero preso per fare qualcosa, non mi ricordo. Loro poi hanno preso Irina, no, forse l'avevano presa dopo. E appunto alla taverna c'era questo messaggio per noi. E in pratica era un Irina invito. Che era la ragazza il cui padre abbiamo trasportato. Sì, sì, per, giusto. No, era perché esatto. Lei. E c'era questo messaggio per noi da parte del barone Ciccino che ci invitava a cena. A me non sembrava conoscere il capo. Quindi abbiamo preso Irina e siamo andati. Abbiamo iniziato il nostro percorso che ci porterà a portarla in uno dei luoghi che ci hanno consigliato, che non abbiamo ancora deciso. prenderla in uno dei luoghi. Suona peggio, portarla. E, mentre passavamo, boh, abbiamo fatto uno scontro inutile con delle mani. Ah, è vero. Mi hanno praticamente stuprato. E poi abbiamo peggiato, direi. Poi siamo arrivati a questa carovana di rom. Che però sembrano essere rom buoni, cioè non quelli che entrano in casa e ti rubano. Anche perché abbiamo rubato noi a loro. È vero. Ironico. Qui abbiamo fatto visita a tipo una loro divinatrice, una vecchietta. Che ci ha estratto di nuovo le carte. E vabbè, qui ho le carte estratte, no? Vabbè. La roba completa qui. Esatto. E niente, siamo lì. Dopo che. Ok. Ma siamo nel luogo dove dobbiamo arrivare? No, siamo in strada per andare. Ah, perché poi dovremo passare dal mulino dove in teoria ci abbiamo scoperto che ci sono le streghe, di cui questa qui che vende i dolci fa parte, perché vogliamo ucciderle. Ma vedete, c'è una fabbrica di dolci che usa bambini, noi vogliamo appropriarcene e vendere i dolci. può essere questo il piano. Mi sembra sicuro. Quali sono le carte che ti hanno letto? I tarocchi erano sono molto pignole, il mercenario, neanche tutta la storia, o no, solo le carte. Così. Il mercenario, la seconda era il filantropo, la terza era il membro della gilda, metti l'audio. Il quarto era il signore oscuro, le carte. E il quinto era la veggente. Che carta lo sapeva? Ma significati come la prima volta, diciamo. Sì, vabbè, te ne dico. Vabbè. Prima carta, racconta una storia. Sapienza. Ah, perché tu hai preso il coso. Non so, ho scritto antichi, ma non suona bene ancora se l'ho scritto. Sapienza. Ah no, la sapienza degli antichi, ok, ho tralasciato alcune. Sapienza degli antichi aiuterà a conoscere colline, meglio il nostro futuro. Il mercenario. Quello che cerchiamo giace tra i morti sotto montagne di monete d'oro. Seconda carta. Racconta di una potente forza del bene e protezione. Simbolo sacro di grande speranza, il filantropo. No. Guardare nel luogo dove malattia e follia sono nutrite, dove i bambini piangevano, lì giace il tesoro. Che suona un po' che potrebbe essere la fabbrica. Racconta di potenza... 3. Racconta di potenza e forza, arma di vendetta, spada di luce, membro della gilda. Stanza buia, piena di bottiglie, tomba di un membro della gilda. 4. Getta luce su chi ci aiuterà grandemente nella battaglia contro la malvagità. Il membro signore della gilda. No, allora, il signore oscuro. La peggiore di tutte le verità. È vero, chi ci aiuterà? Il signore oscuro. Me l'avevo detto di andare! Quinta e ultima. Racconta del vostro nemico, potente più dei mortali. Veggente. Attende in un luogo di saggezza, calore e disperazione. Bene. Quindi sì, effettivamente ci poteva stare di andare dal barone. Ormai è tardi. Anche se io ho detto. No, non è tardi in realtà. È vero, io ho detto almeno. È vero, io. No, perché non avevamo dato una data. Io avevo detto al messo: sì, ci andremo. Però prima dobbiamo fare delle cose. Sto spostando le foto da vendere. Da? Vendere. Cosa devi vendere? Vendere. Cosa devi vendere? Vendere. Foto. Foto. Queste le foto? No, sul serio. Hai usato il coso? Regà, giochiamo o ci facciamo le seghe? E lui stava guardando un porno, quindi. Questa, bello. Quale? Interessante. Cosa? Non lo so. Bene, riprendete il cammino. Mi piace. Ok. Ah, ma quindi è già finita con i Vistari, si chiamano? Sì. On the way. Nel loro accampamento avete fatto il vostro commercio, in cui tralasciamo. L'entità e vi siete fatti predire il futuro da questa madama. Vabbè, ma sei inutile però, Katta. Cioè, mi hai fatto fare i bigliettini l'altra volta per appenderli. Adesso li puoi fare i pieghi a triangolo, così stanno su da soli. Andrea Giacomo Vecchi, metto... preparami una tisanina calda. Ma vattene a fa... è una fetta di culo. Ma leggi, leggi, leggi nella chat. Ti svelo un segreto. Ah, ah, cazzo, non poteva commentare. Guarda che foto, lo faccio uscire. Quella di prima l'ho vista. Guarda che foto, faccio uscire. Era il tizio sulla scala che sta per cadere, l'avevo vista. Non sta per cadere. Allora, vi dicevo. Beh, vedi quella. Avete conosciuto Madama Eva. Non ci devono essere persone. Che è una veggente. Sta con i vistani. Sebbene non vi sembri della stessa etnia. Probabilmente. Vabbè, Byron non c'è, lo tolgo. Probabilmente ha origini diverse, ma sembra molto integrata con la loro. Con la loro gente. Cioè non è colorito viola della faccia? No, il viola ce l'hanno i baroviani. Gli stani invece sono più marroncini. Sono dei rom negri? No, no, però hanno la pelle più scura, più abbronzata. Sono dei bronzati, marocchini. Esatto. Si tintano. E il modo in cui si comportava mi sembrava, avreste detto che insomma era una vecchia pazza senza più un briciolo di senno rimasto in corpo. Ma anche noi che ci siamo fatti per dire le carte, tutto a posto dobbiamo essere. Ecco, è vero, è una cosa. So che c'è Gio, fa gli aiuterà di brutto. Ha il detto, signor oscuro. Vabbè, ha detto che preferisce la fetta di culo della tisana. Dipende quanto ci credi, nel senso. Vi ha colpito comunque il suo, la sua ospitalità e il fatto che vi conoscesse già prima ancora che voi vi foste presentati a lei. Beh, è una leggenda, giustamente. Fai yeah, cominciamo bene, se no sarebbe la classica. Predici il futuro, vecchio. Ve l'ha fatto. Quindi sì, se all'apparenza sembrava una vecchia pazza, in realtà... Lui è ancora, anche, però c'è ancora un po' di lume della ragione e di intelletto in quello che dici. Per una curiosità, cioè se tu lo intendi in quel modo, dovendo essere tipo agenzie di viaggio, queste cose. Bene, qua. Proseguite quindi il cammino lungo il fiume Ivlis, che era quello che stavate costeggiando prima di arrivare all'accampamento. E il fiume entra in un canyon. Le pareti via via si alzano e voi camminate sul fondo. Ma qui diventerà una pianura, attenzione. Sta molto di campagna di Eva, non mi piace. Arrivate fino alla fine di questo canyon, dove finisce contro una cascata. Ecco, lo sapevo. Ah, quindi cioè strada chiusa, nel senso, data la cascata davanti a noi. Ci sarà un'entrata sotto la cascata. Sopra il canyon, insomma, da una sponda all'altra, che è attraversato da un ponte, un centinaio di piedi mi sembra sopra le vostre teste. Sì. No, 1000 feet vuol dire no. 1000 piedi sopra le vostre teste. 1000 piedi? Sono? Abbiamo 1000 piedi in testa. 1000 piedi? Abbiamo 1000 piedi sopra le vostre teste. No, toglietelo! 1000 piedi, ma quello, vabbè, no, il centipede. No, appunto, davanti a voi c'è questa grande cascata che si infrange in questo lago, e voi appunto state camminando su una delle rive di questo canyon. Ah, ok. No, siamo in fondo al canyon. In fondo al canyon. Quindi, scusami, noi siamo in fondo al canyon. Ci sbarra la strada cascata e il ponte è sopra. Esatto. Qui abbiamo sbarrato strada. Oppure... Oppure c'è, la c'è sotto la cascata chi canta, canta. Oppure bisogna scalare. Esatto. Triste. E c'è una scala, dobbiamo cercarla con un bello lì, dove c'è quella sporgenza. Posso farlo io? C'è il sentiero. Vai con stavo pensando, rivivendo la scena di Andrea Maria Giacomo, che vedo. Vai con Perception. Vabbè, possiamo tirarlo tutti forse? Ci mettiamo tutti a cercare. 11 credo, 10 se no sopravvissuta per poco. Beh, provo anch'io a sto punto. Poco è più poco del mio? Sì. Cazzo, anche quello di Giulio è più poco del mio. Ho fatto 7 io. Tirate, barate e tirate per arci. Le pareti, 11. Le pareti di roccia vi sembrano abbastanza ripide e scivolose. Figo. E quindi per scalarle è necessario avere un kit da scalata. Che dove abbiamo? E tutti abbiamo, volevi dire. Beh, posso scalarlo senza kit da scalata. No, abbiamo i paletti di Frassino da piantare nel cuore ai vampiri, però. Se solo pochi fossero dei vampiri su questo. Adocciati sulle pareti, esatto. Irina cosa dice? Oppure con l'aiuto della magia, se l'avresti. Irina cosa dice? In realtà sì, cioè l'unico che ci può aiutare in questo senso deve arrivare ancora. Se aspetti 5 minuti dovremo avere la soluzione. Vabbè, io provo a scalare. No, provo, se no provo anch'io. No, invece sotto la cascata non c'è, non c'è nulla, non vedo passaggio. Vabbè, ci posso provare anch'io. Io sembra io tanto la volta che andavo nella nebbia. Beh, non lo potrei dire sotto la cascata. Potrei dire vado su e vi calo una corda se riesco, cioè, però non abbiamo una corda così lunga. Al lago sostanzialmente, giusto? Non mi ricordo cosa cazzo sei. Non c'è modo di arrivarci sul lato. No, no, barbaro, io potrei farcela, cioè, però non abbiamo poi una corda che ci arrivo. Beh, mettiamo insieme ci puoi provare. Ok. Quanti sono 1000 piedi? 300 metri, 330 metri. Un tiro di atletica. Non abbiamo sostanzialmente. Cioè, volendo posso, mi però sembra giusto, sì. Da voler abbiamo dire tutti una discreta possibilità di farcela. 14. La cascata dietro è roccia. Ok. Cos'hai fatto? Ah, hai provato a cercare. Hai provato a cercare se c'era una via alternativa. Provare a immergersi nell'acqua. Prova a immergermi nell'acqua. Magari c'è una grotta sotto. Ma scusa, la mappa in questo senso ci diceva che era così la strada? A quanto pare sì. E noi siamo stati così abili da andarci dritti. Ma Irina sapeva di questa cosa? Irina, che cazzo di strada ci vuoi fare? È che nessuno gli ha chiesto. Io seguivo voi, mi dici. Madonna, sei un genio. È tipico delle donne. E va bene. La strada che avete preso voi passava per G, scontato, dove c'era l'accampamento. Sì, senso, e vedete che è quella tratteggiata. Sì, sì. Mentre l'altra strada invece saliva e faceva il percorso. Quindi da abbiamo, sopra il canyon, abbiamo diciamo tagliato, ma al prezzo di dover ritrovare una soluzione. Ci sta. Vabbè, io provo a scalare. Foto. Ah, cazzo, sì. Solo sì che questa l'ho spumpata. Sì. Beh, fare un'altra differenza. 8, 10, 13. Per provare a scalare? Sì. Non fai molti progressi, ma non rischi nemmeno di morire. Quello era il tuo. Vabbè, provo anch'io, vediamo dove arrivo. 17. Ah, invece giustamente il montone fa arrampicarsi come un montone. Ah, giusto. Beh, ah, giusto. Non ho tipo dei più a scalare. In no base a il mio animale è un animale totemico è sei nera. Datemi uno schiaffo subito. Solo che esatto, si schiaffeggia. Con la chainmail ho svantaggio la prova. Solo quella di stealth. Ok, quindi provo anch'io. Ma arrivo su? Non credo. Sei hai cominciato a scalare, sei arrivato okay a un terzo del percorso. No, perché se no dico, vuoi aspettare, magari vedo se da su c'è un modo per aiutarvi. Il concetto di base è chi è primo arriva su, lancia la corda giù. Ma che cazzo di corda? Ma non abbiamo una corda da 330 metri? Beh, abbiamo più corde forse. Corde da 30 luna. Se ne avete 300 metri. Però magari se 30 piedi a testa dovreste averlo. Però se rimaniamo 1000 piedi, sì. Se rimaniamo più o meno tutti vicini, alla fine basta una corda, magari due attaccate. Se no, quello, cavolo, qua bisogna quello fare una rampicata. Quello che possiamo fare è legarci l'uno all'altro e andare tutti insieme. Se uno cade, gli altri lo tengono. Cadono. No, vabbè. Visto che non abbiamo gli arnesi. Possiamo fare una prova di gruppo. La prova di gruppo, magari io spiano la strada e gli altri sanno dove passare. Prova di gruppo, ognuno tira. La spiegavo al master, questo era il tiro. No, forse chi sia un incantesimo. Sì, però lo no! Beh, lui ha già tirato. Neanche io. Vai, tiro anch'io. 20. Athletics. Se no la finisci di caricare. Vai. Quanto hai fatto? 20. Non naturale, però. È buono. 17. Minchia, siamo fortissimi, ragazzi, andiamo facile. Scusa, Irina però. Irina qualcuno se la prende a tracolla e tira con svantaggio. No, è leggero. È figo, molto. Ma è il simbolo di chi qualcosa? Ha più forza? È un coglione imbagliato per un bel no, perché sei tipo il simbolo di una marca. Io più 3. Ecco, vendigli sta foto diretta a loro. Pure. Tu quanto hai, Shell, di forza? Più 3. Sì. Tutti più 3. Vabbè, diciamo che il nano non la prende perché già è corto. Ci sta. Prende. Vabbè, sono 1,70 però. No, sì, ero più alto della media. Sì, sei comunque un nano. Cioè, se sei un nano più alto di quanto sei alto tu adesso. Più alto ci faccia male. Sei un nano più alto di quanto tu sia realmente alto. No, uno è. Ma non mi ricordo, l'ho scritto. Dove? No, ero. Non c'è scritto. Non qua. Non lo scrivo. No, l'ho scritto nel foglio, ma è da qualche parte. Abbandonato. Molto bene. Arrivate in cima alle cascate di. Ah, Zero. Così facile. Non c'è un'altra prova. Okay. Ah, se volete farlo. No. Ma sì, dai, voglio di nuovo PG. No, scherzo. Uno. Come Arci l'ha passato automatico perché è una persona palestrata. Sì, Arci l'ha passato. Secondo me Arci ha fatto fumble. Arci al massimo si sarà trasformato in un animale, sì. Avrà strisciato. O volato. È arrivato l'orso. L'elefante. Perché? L'elefante rimane incastrato nel canyon. Raggiungete la strada. Una balena. No, in realtà sai cos'era il top del top? Il salmone. E poi andare alla cascata. Bellissimo. Quello a sue crepava. Era un po' alta la cascata. Ma prima sborrava. Adesso ma poi crepava. Sì. Da sopra vedete un bellissimo panorama. Sushi. No, sì. Patatina bruciata. Con la cascata che si infrange. Contro la qualità sotto schifo. Di voi. Sanno di bruciare. Cosa dici? Arriviamo in cima alla cascata. Sì, arriva. Direi che a questo punto lo aspetti un attimo e fa la prova. Vado a fermare la liberatoria. Per scalare. Vabbè, ormai abbiamo superato già tutti e quattro. Così poi dovete andare a recuperare il cadavere. E se è una prova di gruppo, anche se la fallisce, non è influente. Arrivate quindi a questo. C'è questo ponte di pietra, ai bordi dei quali ci sono diverse statue di gargoyle che sono ricoperti di muschio nero. E ad ogni angolo del ponte riconosciamo simbologie. Prendere un po' più in là, esamini gargoyle senza toccare. Va bene. Se ci sono effigi, simboli, sono dei normali gargoyle di pietra. Sono delle innocue sculture. Sono tipo cartone animato? Nel caso, sì. E c'è il cartone animato dei gargoyle? Sono dei gargoyle. Va bene. Sì, dopo. Sì, dai, ci sentiamo dopo. Ciao. Oh, ciao, ciao. Ciao. Ciao, Arci. Ciao. Ma dove va di Natale? Anche te adesso. Io però mi sono il maglioncino da Natalizio. Vabbè. Io ho portato l'albero, ma non hai contato una sega. Che l'albero? Sì. Ah, quello è l'albero. Il master è rimasto allo speciale di Halloween, come vedi. Questa la veniamo tutta la vita. Lo attacchiamo. Sì. Bene. Ma siamo solo con Irina. Tira iniziativa. Ma siamo da soli con Irina. Buona show. Ci sono ancora arrivato, mi sono ancora seduto e stai già. Dispettista. No, però ci sono i gargoyle, cioè, puoi attaccare un gargoyle. Preventivamente, metti che si anima e il dubbio l'hai già picchiato. Il ponte. Carta confusa che stai. Sì. Cata un po'. Ho detto è rimasto lo speciale di Halloween. Il ponte è molto bagnato, pieno di umidità e la pavimentazione scivolosa. Però è sicuro da attraversare. E la strada, proseguendo, porta a. I piedi delle montagne. Prof, poco finisce. C'è Andrea Giacomo che guarda i porno. Sì, l'ho già detto. Sì, porno abbiamo già sgamato. Quattro. Andrea Giacomo ci fa le seghe in aula. Finire per eventuali secrezioni a portata tua. Perché non abbiamo usata come accusa fasulla in classe? Credo che qualcuno abbia fatto una tripla penetrazione. Perché se avessimo detto Andrea Giacomo si masturba in aula, proprio detto sì. No, sta dormendo. Beh, era proprio. Sembra. Padre era un martello. non credo. Però sembra, ma sì. No. È una chiavetta Arci. Sì. Dopo ti do le foto. Uh-huh. Perché ho provato a caricarle e il computer ha detto che era troppo lenta la velocità e sti cazzi. Ah, tu però già te la prendi sto? No, è birra. Dai, posso seccare. Comunque abbiamo lasciato l'accampamento dei Rom. Siamo arrivati alla cascata, a questo punto che è un canyon. Abbiamo una cascata di fronte e abbiamo scalato il canyon. Fino ah, ok. Quindi siete arrivati in cima. In cima. Quanto cazzo manca sto mulino di merda? Un po'. E in cima c'è un ponte che collega i due lati del canyon. Ce lo stava descrivendo, un ponte di pietra molto bagnato e umido perché è sopra il fiume. Soltanto. E da qui potete vedere da la vetta che vi siete faticosamente guadagnati il panorama delle montagne. Le foreste circondano la zona e sono coperte dall'onnipresente nebbia. Più in là la strada si divide in due e allargandosi verso lì vedete in quella diramazione comincia ad esserci una pavimentazione di pietra. Suggerendovi che la strada che andava verso est era una volta una via importante. Questo rispetto a dove venivamo, scusami, da che parte è? Che noi arrivavamo da sud? No. Voi arrivate, sì, esatto. Cioè noi arrivati da sud, c'è sto ponte, di là era importante. No, vabbè, era per capire se era nella nostra stessa direzione. Voi siete in H. Muovo il cavallo in F. Andando ah ok, su. Siamo saliti lì e si biforca. Ah, è vero che qua il nord è... No, no, il nord è in alto. Ah no, ok, allora non ho capito niente. Voi siete ah, noi siamo arrivati dalla cosa tra... Siete arrivati lì. Siamo a I, che c'è il bivio. Ah, ho capito. La strada che va a destra. Va dal castello dove vuole andare Giulio. Sì, è quella che vi chiamo. Ciao Giulio, ci vediamo dopo, eh. Ciao ragazzi, ci becchiamo dove abbiamo detto. Ci becchiamo. Non è che vai te? No, oddio, oddio! Cioè ti rendi conto Giulio che c'era dalla tua parte? No, ho chiesto perché non ci andiamo. Vez, ti stupisci. Hai sentito la divinazione? Sì, ho sentito, ma era un modo per dire che nessuno ci aiuterà. Questo è un modo di vederla. La divinazione dice che l'oscuro signore ci aiuterà. Ma infatti... E noi andiamo a cena dall'oscuro signore, che male c'è. Sì, sì, arrivando... sì, c'è una cosa. Te vai a fare aperitivo, lo ti raggiungiamo per cena, cioè così. Va bene. Arrivando al bivio, notate, al lato della al strada... Trivio. Esatto. Bravo. Un carro, una carrozza. Strago le spade. La faccio saltare. C'è una carrozza parcheggiata e una grossa carrozza nera trainata da due cavalli neri. Cioè, strago le spade tutti, vedete che razzista. Ah, che razzista di merda, non era neanche con gli zingari di merda. È al bivio orientato nella direzione del castello. La navetta. Oh, ragazzi, c'è anche la navetta che ci porta al locale. E dividiamo il taxi, siamo a posto. I cavalli sono lì che nitriscono e sbuffano. Vedete il loro vapore uscire dal loro respiro, uscire dalle loro bocche nella fredda aria di montagna. Non c'è qualcuno. E mentre vi avvicinate, la porta della carrozza si apre silenziosamente. La carrozza all'interno è vuota. E continua a guidarla, c'è nessuno. Ci sono questi due cavalli. No, sì, però al posto del... la carrozza è vuota. Che si dice? Cocchiere, grazie. Non c'è nessuno. Mi sembrano vivi i cavalli? Sì. Non sono tipo dei cavalli da traino. Io dico, amici miei, rifuggiamo queste tentazioni oscure. Sì, ragazzi, saranno 2 euro a testa, dividiamo il taxi, arriviamo al locale, tac. Ma... Dividiamolo, figa. Provo ad andare a posto il cocchiere. sali sulla carrozza, sei al posto del cocchiere. Se io do degli ordini ai cavalli, io la tumore che è, però gli ho chiesto di fare una roba, cioè non che seguono quello che non seguono. Sì, lui c'ha la sta paura del bagaglio. Cioè, che tumore. C'è la paura. Ma poi fa ridere. Non seguono gli ordini di chi c'è. Ha paura del tumore di lì. No. No, è paura di tumore che stare. Non ci può stare, ha paura del. Pat. Cioè, non so se è paura, veramente. Pat. Cosa fai? Metti, io, metti i soldi io per ogni. No, cazzata. Devo dare la chiavetta sopra. Ah, ok. E per il taxi? No, dopo lo faccio. No. Ti soldi per ogni cazzata che dici. No, cioè, lo dico tu che sei un druido e dovresti avere una certa affinità con gli animali. Prova a vedere se questi animali, questi cavalli possono esserci utili. Prova a vedere se questi cavalli possono esserci utili. Che cosa fai? Cioè, perché devi capire se tu, se a te rispondono, se tu gli dai un comando. Ce l'ho, ho un incantesimo che si chiama apposta. Ma non puoi fare un tiro di addestramento animali, semplicemente. Non ce l'ho addestrare animali. Vabbè. È un druido, mica. però sarebbe i miei animali. Però saggezza alta. Posso provare a fare. Forse tu hai addestramento animali da guerriero. La parlare con gli animali. C'è un a me non hanno risposto. Sembra, esatto. A me sembra che non. Puoi lanciare anche come rituale, mi sembra. Non rispondono ai comandi che hai. Cioè, quello che ci metti un po' di più, ma ce l'hai gratis, un trucchetto. Tipo, sì. Direzione del magico, facevi. Mentre il mio avvocato controlla che effettivamente posso fare ciò, chiedo ai cavalli. Allora ci metti 10 minuti. E. Sì, vabbè, 10 minuti li possiamo fare. Cos'è che devi fare? Individuazione del magico. No. Se sono loro i padroni della carrozza. No, o se aspettano qualcuno che li guidi. No, stavo facendo parlare con gli animali. Il cavallo dice: stavamo aspettando voi. Il nostro padrone vi aspetta. Ma non sei soffocato? Guardami Las, che cazzo. Io non capisco il cavallino. Sì, lo so, grazie. Già neanche faccio fatica. Giuro scasso. Il vostro padrone? Il nostro padrone, il conte. Ok, ci sono tanti io lo dico, dico che è la, riga, è la navetta che porta il conte. Ma voilà, no. E ci stavano aspettando. Pazzesco. Oh, grazie. Sono dei cavalli, raga. Oh, sei un grande. Sei un grande. Come dice queste parole, Irina si spaventa. No, e gli dice: lei non c'era arrivata. Che, ma... che i due cavalli sono degli assassini che vogliono uccidere Irina e sono travestiti da cavalli. Ok, io ti guardo come se guardo un coglione. No, però te l'ho già detto cosa ho detto, Giulio. Però uccido un cavallo. No, no, sono semplicemente dei la carrozza di cui mi stavamo aspettando. Ok, e ci do una spadata alla gola di un cavallo. Li tranci. E gola. Anche all'altro. No. Ma che cazzo di problema ha? Ci sono due cavalli. E anche la carrozza. Cibo. E do un colpo anche all'asino. E anche a me. Adesso voi allora, scusatemi, siete voi che non volevate andare dal conte. Questi sono cavalli che ci avrebbero portato solo dal conte. Ho l'idea finita. Che motivo c'era di uccidere i cavalli? Così loro non lo possono dire al conte, hanno del cibo. Perché gran dialoghi ma tra il conte e i cavalli. Allora, non mi devi firmare un foglio. Adesso anche il conte saprà parlare con gli animali, se lo sa far lui. Leghiamo Irina al posto dei cavalli. È probabile, visto che hanno il preciso compito di portare solo. Leghiamo Irina al posto dei cavalli. Noi ci sediamo comodi e andiamo nell'altra direzione. Leghiamo il nano barbaro al posto dei cavalli. E ci facciamo i cavalli non ci sono più. Al posto dei cavalli. Ci mettiamo Irina perché lavora. Al posto dei cavalli, Vez. No, vabbè. Era uno dei cavalli. Agli animali succede qualcosa di particolare? O dei cavalli, lui dei normali cavalli. Comunque, scusa druido, ho appena ucciso degli animali. Cosa devo dire? Bravo! Ah no, già fatto il bis. Cosa vuol dire? Qua c'è il druido che gli animali li ammazza. Beh, tranquillo. C'è il chierico che... Ma questi corpi lasciamo... Ah no, io non ho rispetto per i morti. Li lasciamo morire. Vabbè, qua. Io ho sentito la scena in cui tutta la compagnia ha ammazzato la carrozzina, un povero c'è nudo qualcosa bambino, sopra bambino, la cantina. La fattura è squisita. Vabbè, non era un era una cuscina. Caricato, come si può comodi, morbidi. Ma quando siamo lontani dal... Mordo sotto un cosby che cercava rifugio dietro una colonna e ti ha caricato la colonna. Era molto meno indifeso di quegli animali. Era comunque un animale. Non è questione di essere indifeso o meno, è questione della cattiveria che c'è questa compagnia. Sì, va bene. Non posso arginare niente. Sì, ma la quella sul vampiro non era gratuita. Era il primo inizio. No, perché questa è la carrozza giù dalla... Lui ha ammazzato la famiglia nella casa. Vabbè, quindi Giulio ha ucciso i cavalli e niente, però proseguiamo a questo punto. Ok. Quindi est, cuscini adesso, esatto. Poi? Ah, sta rubando, sta rubando la roba della terra. Quindi a est. Ah, rubi addirittura il cuscino. No, però si ormai no. Silenzio, avete... strazione. Posso mettere un bastone nella testa del cavallo e una di cavalluccio? Riega, hai cibo, ho procurato il cibo per i prossimi giorni, vaffanculo. Possiamo effettivamente ricavarne almeno la pelle. Cioè, sei pazzo, però. Pelle ci metto un po'. Non ho mai detto di no, di non avere dei problemi. Giro con la testa di una bambola, che si chiama Isabel. Sarebbe l'ultimo di scusa, fatti una collana col trofeo della testa di cavallo. Comodo. Perché? Così. Perché? Ah, vabbè, possiamo. Cioè, come si è fatto male? Stiamo parlando di cose del secondo. Cioè, scusatemi, abbiamo deciso che il barone lì, il conte, è cattivo e non ci andiamo. Questi cavalli avevano l'unico scopo di portarci lì. E io ne ho e quindi sono a parte che non li abbiamo anche rubarli e utilizzarli noi, magari. No, tu ci hai parlato, hai detto che ci dovevamo portare lì. Non è che ho chiesto i cavalli. La prossima rubarli. Volta ti spiegavi meglio. Io ti ho detto quello che mi ha detto i cavalli. Appunto. Vabbè, e andiamo ho a est. Ho evitato che probabili spie dicessero dove andavamo. Andiamo a est. Dai, proseguiamo verso no. Sì, possiamo verso macellare un po' di carne in questi cavalli? Certo. Sì. Sì, la carne, sì, la pelle ha detto che ci vuole troppo. Dovevi farti un'armatura di pelle di cavallo. No, vabbè, le pelli si possono vendere comunque. Di cavallo. Comunque abbiamo le provviste per i prossimi giorni. Quindi proseguite a ovest. Sì. Proseguiamo verso il mulino, Catta. Ah, no, prima... Posso bruciare la carrozza? Prima posso guardarci dentro e vedere se c'è qualcosa. Tardi. Ci ho già guardato. Sto guardando io. Ho fatto qualcosa. Ah, ok. Lo chiudo dentro. Tranquillo, tutte le manie sono già state... No, vabbè, io guardavo per curiosità, non volevo rubare niente. Invece. È che in realtà volevo spingere la carrozza giù dalla cascata, ma è troppo lontano. Vabbè, ho preso solo un pezzo di... T'aiuto, no? Dobbiamo fare... Quanto hai detto? Prima che bruci la carrozza. Un terzo di miglio. Che ironia. Una merda. 8. Io vivo la vita un terzo di miglio alla volta. Tre quarti di miglio a spingere la carrozza. Beh, su due volte lo che non è una strada... Tutta curva. Cioè, sono i tornanti. Ma è in salita e in discesa? Bello, ho piccato il ditone. Si sale, si scende. Vabbè, la brucio allora. Ok, bruci la carrozza. Irina sembra un po' più tranquilla. E oh, questo incendio non farà sicuramente vedere a... Sì, esatto. Come è andata bene la sua carrozza. Esatto, la risposta è una risposta per il conte. Questa. Il conte l'avrebbe saputo in ogni modo. Questa è una cosa sgarrata. Chi ti parla, questi cavalli? Ti prego. No, beh, ho... I suoi rega, voi sono... potete fermarmi mentre faccio le azioni. Poi, vabbè, come fai? Cioè, se dai lì sgozzi un cavallo, non se l'aspetta. Mentre okay. Mentre il problema è che mentre noi siamo lì, che diciamo, ma Giulio cosa? Anche l'altro. E i loro parenti. Ma cosa? Quello no, ma il bruciare la carrozza... Potete fermare, cioè, se dite, no, non bruciare. Quello è il minimo brucio. Che se ne frega della carrozza, Giulio. Cioè, sì, esatto, che se ne frega della carrozza. Come dire, mentre io pulisco le ruote, potete bloccarmi se volete. Sì. No, vabbè, il senso effettivamente è che il fuoco viene visto anche da lontano. Secondo me, il barone, una volta che gli ha uccisi i cavalli, sa che noi siamo passati da qui. Lo può intuire che qualcuno li ha uccisi e non sono morti decapitati sì, da soli. Non so che siamo stati noi finché non abbiamo fatto segnali di fumo con scritto solo. Ma vabbè, però lo capisce il barone, secondo me. Se ha una carrozza con due animali non addestrati ma magicamente. Ma scusa, è cambiato, è sempre il conte, non è il barone. Sì, non so perché è diventato il barone. Ah, scusa, sbaglio io. Non era negro prima quella. Non c'era l'anello del conte sulla carrozza. È corso talmente veloce che tirare per se trovavi la ribaltina dove veniva fuori gli alcolici. Vabbè, però non l'hai trovata e lui l'ha bruciata. Quindi ho visto una piccola esplosione. Mi dispiace. Vabbè, allora niente. È logico, una volta che abbiamo deciso che il conte è il cattivo, è inutile farlo. Vabbè, allora basta. Vivere i cavalli. Andiamo a essere, tiriamo iniziativa allora. Bene. Perché non avrei dovuto uccidere i cavalli? Cosa avremmo potuto che fare? Che cazzo di animale? Vabbè, usarli? Cioè, nel senso, non ha senso quello lasciarli vivere? No. Erano magicamente lasciarli vivere il conte. Ah, non ha senso quello che hai fatto, ma siccome il tuo personaggio tanto è così e poco male, insomma, è andato. Ho capito, cosa avremmo dovuto fare? Niente, andare oltre. Sì, esatto. Questi cavalli sarebbero tornati subito, almeno io... così c'è un po' più di suspense. Per e poco dopo un incendio, però... Lì potete fermare, se mi dite non bruciate, non la brucia carrozza. Distruggila, ma non bruciarla. Vabbè, ormai l'ha bruciata, zio. Non l'ho già bruciata, io ho detto brucio la carrozza, ma se voi mi dite no, aspetta, non bruciare ma la carrozza, non la brucio. Ma bruciato, se dai. Ti togliamo la gioia di bruciare la carrozza, dopo che ho ucciso i cavalli... Non siamo mica come qualcuno che uccide i cavalli senza motivo. veramente. Tranquilli, dopo che ha ucciso i cavalli. Va bene, cioè, possiamo. Fai così. Ma quello sia. Sì, aspetta, tutto questo astio perché ha ucciso due cavalli. Non lo capisco. Ma fai così, brucia i cavalli. No, credo che Vez sia. No, il commento direi più adeguato è stato quello di Salla. Tipo, ok, sei pazzo, però è ok. Vabbè, dai, brucia tutto, anche no, i cavalli. Sì, via. Ma le bronche che giocano nel più. No, magari. Ah no, non è arrivato. Vabbè, alla fine brucia anche la carrozza. Perché mi detto anche, ha detto scherzo. Anche cosa stai bruciando? Ovviamente le parti di carne di cavallo che non ci prendiamo hanno bruciato. Ci vuoi scazzare il tiro libero? Ovviamente, che vuol dire, come si fa a scazzare? Cosa lasci dei cavalli lì? Allora, ha detto anche, ovviamente, le parti di cavallo che non prendiamo vanno bruciate. Ah, beh, questo era chiaro. È l'ovviamente. Giulio, potresti elencarti? Immagino Giulio con i cazzi di cavallo. Vabbè, brucia. Scusate, cioè, lasciamo dei cavalli morti lì che possono diventare i cavalli zombie. Per quello che ne sappiamo. Ma stai sentendo cosa dice? Ma erano vinti. Ha paura di diventare cavalli zombie e quindi vanno bruciati. No, vabbè, delle due ha quasi senso in realtà. Ma erano vivi i cavalli. Non più. Quindi lo uccido. Vabbè, finita questa parentesi di follia. Poi proseguite quindi, immagino, no, verso ovest. L'omissione di soccorso, diventiamo malvagi anche noi direttamente. No, l'unico che sei un droido, un cavallo. In teoria, raga, cosa devo fare? Cioè, io rimango ripilato. Dovresti incazzarti. E no, diciamo che in realtà l'hai fatto. Però vabbè, proseguiamo. La descrizione di Carlo è lì, tranquillo. Ma non sa nulla di interessante, uccidili, cazzo ne frega. Ok, il druido, no, vabbè, era un cavallo. Qua sono anche tipo dei cavalli mezzi malvagi, maledetti. Ma no, ma cosa fai? Li uccidi prima di bruciarli? Ma sei pazzo? Dal mio punto di vista è perfettamente logico quello che ho fatto. Certo. Dal tuo punto di vista che non è logico. Proseguite per la strada. È logicissimo. Faccio lo schermo. Per logicità. Arrivate ai cancelli di Barovia. Occam sarebbe i cancelli del castello, ho detto. No, dobbiamo stare andando al mulino. Appunto. Quindi state uscendo da Barovia. No, non da Barovia, dai, però dal ancora casatissimo. Come dire? Quasi per però Vez l'hai impressa la provincia del castello, l'area di influenza del castello. Siete ancora a Barovia. Però diciamo la strada sia quella da dove siete entrati nella valle. Vabbè, finita la provincia di Forlì Cesena. Cioè, praticamente è il giardino di Barovia dove stiamo entrando. Stiamo uscendo. No. Ah, lì tipo Île de France. Stiamo uscendo da una provincia, stiamo entrando in un'altra. Che ironia. Okay. O mettila così, stiamo lasciando l'Emilia Romagna e stiamo entrando in Lombardia. Siete al casello. Quindi stiamo lasciando Barovia per entrare in Barovia. No, siete sempre a Barovia. Una donna che siamo rimasti con la testa di Barovia. Sì, prevede la fine del casello. Cioè, io non è che ho tipo la proprietà con un cancello e dico qua inizia voi la mia subproprietà. Perché fuori dal cancello puoi avere ancora un giardino che è sempre tuo. E per questo che ho detto il giardino di Barovia, siamo andati prendendo la portiera. Ah, ok. In realtà quello che dice tu è un cancello di Barovia, deve essere dentro Barovia. Ah, ma forse è un, nel senso che è un cancello fatto con la gente di Barovia, quindi è un cancello di Barovia. Non potevi lasciare la testa. Non lo sapevo. Ma anche bene. Sì, infatti. Sono queste grosse pilastre. No, provavo il soggetto. Decorati con due tipo grosse statue. Che raffigurano senza testa. Che quante sono per accedere al giardino? Hai ancora le teste di cavallo giù da metterci sopra. Voi in realtà state uscendo, quindi. No, sono bruciate probabilmente. È quello che vi lasciate alle spalle, questo. Il druido propone di mettere teste di cavallo. Come quello che avete visto. Mi ricordo se te l'ho scritto quando siete entrati la prima volta nella valle di Barovia. No, veramente proprio. Questo non lo farei mai. No, le bruceresti. Non so se c'è. Ricordo, però ce n'è una. Ne avete incrociato un altro uguale quando siete entrati. Ma quindi questo, cioè, scusami, è solo un cancello, chiamiamolo intermedio della regione. Cioè, è così, è così tra grande. Tra virgolette, la prima difesa del castello. Sì, caspita, è tanta roba. Vabbè, c'è una mania di grandezza il conte. No, non era per fargli. Non è bastato per fermarci. Io tornerei indietro per fargli i complimenti. Molto tempo fa, evidentemente, era una provincia molto ricca e molto. Io tornerei indietro per fargli i complimenti. Saranno i cavalli a portare i nostri complimenti. No, è bene. La strada, poi usciti una volta dai cancelli. Ma non c'è sulla guardia, però, qua. No, sentite. Prima difesa. Ovviamente, quando una volta. Quando passate vedete le porte che si aprono da sole mentre arrivate. Ah. E si richiudono quando poi siete usciti. Ah. E se proviamo a rientrare? Non si apre. No? Sono porte, c'è la fotocellula dall'altra esatto. parte. È un casino. E se scavo la porta? Si riapre. Scali la porta. È una volta che sono passato. Per ritorno all'altro lato. Non so se hai visto. C'era. Puoi tornare all'altro lato bene. Scalando. Cioè, devi scalare il muro. Vabbè, sì, scalo il muro. Va bene. Quanto altro? Giudicare direi almeno come. Sì, una ventina di metri. Vabbè, abbiamo scalato la cascata. Non è di più. Forse anche di più. Vabbè, capito, abbiamo scalato la cascata. I tuoi compagni ti aspettano mentre fai questa cosa. Cosa faccio? Vabbè, cosa non lo faccio. Vuoi scalare per vedere se no, no, io no, no, raga, proseguiamo. Giulio farà le sue scelte. E voleva andare a fare il commento al conte. Ma... Forse è ancora rimasto qualche stuzzichino dell'acqua. Sì, sì. Andiamo. Si è avviso dei cavalli. Tanto quanto manca sto cazzo di mulino. Sì. Non possiamo magari bistecca di cavalli. Andiamo verso il mulino. Chiedendo all'Irina, dove adesso dovrete attraversare una piccola foresta. E poi. Ma lei è mai uscita fuori? Raramente si è spinta così là. Ma i cancelli poi fanno sempre così. Dipende. Chiedo a Giulio se vuoi non bruciare la foresta. Al massimo non brucia i cancelli. Vabbè, cancelli. Facciamo un altro passo. Pietra, un non saremmo mai stati così lontani da casa. Sei stato un mago. Sei questo? Sempre. Ma non lo sei. Ancora. Sì, sì. Sempre. Bene. E attraversate la foresta. Ah, così? Sì, subito sì. dopo i cancelli. Che cosa fate? Adesso lo faccio impazzire, ragazzi. Faccio una prova di perception per capire se c'è qualcosa che a te la mia attenzione druidica nella foresta un po' strana. Facendo un 18 18 18 18 18 5 23 18 18 okay. 18, 18. Come le foreste che stavate attraversando prima di giungere qua, anche questa senti una scura presenza che permea tutto la terra intorno. Buture. Ma per sentire una versione più è qualcosa, sai? Ricordatevi che c'è sempre l'onnipresente nebbia. Il bagaglio. Che impedisce di vedere più lontano di soliti 60 piedi. Ok. Che sono quelli che sono sulla stiva. Cioè non sulla stiva, sono già tutti presi. La tua percezione druidica è quella di una terra martoriata. Per questo motivo anche le piante che ci crescono, probabilmente anche le creature che ci vivono, crescono deviate e malsane. Okay. In continua lotta per la sopravvivenza in una terra dove di fatto il sole non splende mai veramente. Mi scende una lacrima e arrivate alla fine della foresta. Posso guardare? Vabbè, posso avere un bicchiere. Se ci sono eventualmente. Ma posso avere dell'acqua? C'è dell'acqua? C'è dell'acqua. È trasparente. No, è finita praticamente. C'è rimasto solo il fondino. Vabbè. L'acqua fa il fondo d'oggi. E se ci sono tracce per capire la quanto è battuta. Giulio hai l'acqua. Via. Ma ce l'ho. Vai, fammi una sopravvivenza. 19. Trovi le tracce di un piccolo carretto. Non è la carrozza. No, è piccolo. Ho spinto la mano. Piccolo carretto. Secondo me è la vecchia di merda. Esatto. Come un carretto spinto a mano. O trainato. Ci sono anche le orme della vecchia. Ci sono delle orme. Vabbè, non c'è scritto orme della vecchia, però sono di un umanoide. Italia. I passi sono abbastanza ravvicinati come se una vecchia stesse strascicando le ciabatte. Fammi indovinare, va verso est. È sì, quella megera. Va verso Morganta. Dovevamo andare a est? No. No, mi dai il player? Ah no, come però effettivamente ci sono sia una direzione che nell'altra. Okay. Ho guardato a se c'erano tracce, non so se hai sentito, c'erano solo tracce di un carretto trainato da un umanoide, quindi probabilmente la vecchietta. La vecchia? Ah sì, è vero, non avevo ancora. Ti ricordi il nome della vecchia tu, Vez? Morganta. Bravo. Morganta. Morganta. Morganta. Se volete qui c'è. Non è una strega Morganta. Questo è un altro libro di storia. Te lo dupo, non lo schifo. Adesso è un altro demo. Ce l'ho anche qua se vuoi. Però è più comodo quello. Questa campagna non funziona. Vabbè, kill Explorer. Allora il disingaggiamo e fuggiamo. Ma perché altro siamo andando in un covo di streghe a livello 3. Ma no. ci siamo fermati a riposare almeno una volta? No. Beh, quando siete stati dai Vistani. Ah sì. Allora all'accampamento. Sì. Adesso sono full vita, perché non lo so, sono full vita. Anche io sono full vita allora. Ecco, se prego, se diretta ora. Meno me. Attraversate la foresta animali. Molti più. Quindi normalmente non è battuta questa via. Ma è un sentiero, è una strada o sì, stiamo passando per sentiero? Okay. Quindi normalmente non è battuta se non da questa persona col carretto. Normalmente non passa molto gente. Questa persona col carretto chiama per nome, si chiama Morganta. Va bene, probabilmente è Morganta, però mi chiedevo se è una. Cioè è normale che di qui passi sparato, gente o se è una via. No, dato che è l'unica via d'accesso di fatto al castello venendo da ovest. Della gente ogni tanto ci passa, più magari delle carovane, quindi hai un unico passaggio tutto in una volta. Capito. Piuttosto che un passaggio continuo. Okay. Attraversate la foresta e arrivate in uno spiano, insomma, in un punto in cui la visuale vi permette di vedere un po' più in là dei soliti 60 piedi. Vedete in lontananza alla fine di questa strada che fa, dove fa una curva, la strada si biforca, prosegue dritta e prima dell'inizio di una nuova foresta più grande di quella che avete appena attraversato vedete un molino che sta il molino che vorrei vicino a un che colore è il molino? Quanto è grande? Non è un colore legno, però. Vabbè, di solito il legno di che colore è? Bianco. Dipende dal legno. È un mulino bianco. Un mulino. Vado, cerco una gallina. Quindi tecnicamente qui fanno i dolci. Rosetta. Ed è un mulino bianco. Beh. Però non sono più belle come quando c'era. Coso, bandiera. No, adesso sono anche schifo. Non lo so, non guardo più. Le pale del mulino non vi sembra girino più. Sai cosa gira invece? Quando Netflix effettivamente. Non è più Netflix. Il tetto è fatto a cipolla. E vedete appunto che consta in almeno 3 piani, contando quello che c'è anche nel tetto 4. Ragazzi, quante volte ve lo devo dire, non facciamo pubblicità finché non vediamo la pilla. Buono questo panettone motta comunque. Vez che è un riccone di merda e compro il panettone motta. No, l'ha comprato Sceo. Sei un riccone di merda. Guarda Sceo che è un riccone di merda e compro il panettone motta. La faccia tua falso borghese. Non porto niente. Io faccio quando dico il panettone motta, Straccione. Non porto niente tipo da 26. Io voglio fare un investigation per cercare di capire qual è il modo migliore per. Io ho portato la cosa per avvicinarci a. Al mulino senza. Diciamo, io ho comprato la coca scacciata. Cioè, comunque il panettone avrebbe un impasto così buono che buttarci dopo la merda di uvette di canditi dentro. Basta, è buono per quello. Però, è buonissimo. Raga, non capite un cazzo, è buono per quello. Se dei straccioni. Che mi piace quello il pandoro. Sono finito in prigione. Straccioni. Civil War. Chi vuole? Tu giù vuoi un po' di birra? Strazzo! Ancora l'acqua. Grazie comunque. Allora, proviamo a stupare per la mano. Come ti chiami? Aladine volevo dire Aladine, volevo dire straccione. Straccione. E quindi? Quindi? Entriamo nel mulino prima che Giulio dia fuoco. Io ho detto guardo qual è la strada migliore per arrivare al mulino senza essere visto. Adesso vi dico. E accende una torcia nel frattempo. No, lui mi ha detto aspetta che finisca la descrizione e poi fai il check. È un incantesimo che può tipo annullare il fuoco in una zona. Dipende se ha bevuto molto. Non il mio fuoco. Scusate, quindi siamo dal mulino. Lo state avvicinando. Ok. Ed è bianco? Adesso vi tengo. No, tre secondo me. Adesso vi dico cosa vedete. Farlo attorno a lui, vado che non possa bruciare. La vecchia strada. Mi ringrazierai. Un si chiama la strada Svalici. Quella sulla quale state viaggiando passa da essere un sentiero a essere invece una strada in quelle percorsi appunto ad esempio dalle carovane, come ti dicevo, che passa intorno alle montagne e scende in una valle piena di nebbia. Nel cuore della valle vedete una città che sorge sulle rive di un grande lago di montagna. Le sue acque sono scure e ferme. Le acque della città? Le acque del lago sul quale sorge la città. Scusa la domanda scema, è giorno? Sì, è giorno. La città, queste cose, la città quindi galleggia. Cioè, questa avventura funziona sulle rive del lago. Sono le istruzioni. E non è importante se tu hai la porta davanti, non puoi vedere cosa c'è quello della stanza di. Sei comunque la descrizione. Esatto. Metti una porta all'interno. Non apriamo quella porta all'interno. Ci sono quattro persone pronte a farmi un agguato. Cosa fate? Un ramo della strada porta verso un ramo del lago di Como. Esatto, un promontorio. Mi sono appropriato di un piatto. No, ma dove? Sopra questo promontorio. Vedete il mulino. Non togliere mai il cibo dalla bocca. Ormai consumato dal vento negli anni. Passa la sala questa. No, ho preso. Quello è l'altro. Quando lui non lo mangia, l'ha messo qua. Come fai a non mangiarlo? Il motto o il panettone? Cioè, con il pane quando c'entrano le uvette candite. Ma in generale il panettone è solo il potrebbe mangiare, che uno stronzo ci mette tutta sta roba. Io lo farei con il goccio di cioccolato e burro. Pandoro quindi ti piace? No, c'è cioccolato. No, dico, però ti piace. No, ma è diverso che l'impasto del panettone. Vabbè, mi piace l'impasto del panettone con la cioccolata. Ma l'impasto del panettone vuoto sarebbe il top. Ma l'impasto del panettone non sarebbe così buono senza i sapori. A me piacerebbe la pasta, poi sopra ci metto la Nutella. Che cazzo di discorso è? Panettone, panettone. Se non vuoi bene, un dolce con cioccolato. Solo piacciono i tortelloni al ragù, o i tortelloni burro e salvia. Sarebbe bellissimo se i tortelloni sono. Panettone sarebbe bellissimo se chiamassi panettone al cioccolato. Sì. Sarebbe bellissimo se i tortellini avessero ripieno di pesce. E anche l'esterno di pesce. Perché fate i tortellini alla branzina? Non sono buoni. Ma la fatti dei modenesi. Sì, ma anche l'esterno. No, il chef ricercato di Bologna. Deve essere anche l'esterno. Ricercato di decisamente sì. A Bologna fanno la cosa del genere. Fatta l'acqua pazza. Capito. Beh, non è un programma. Le pale del mulino. La tela delle pale del mulino è strappata dal vento. Dopo troppo tempo di inattività. Mi immagino noi che arriviamo, vediamo il mulino e poi stiamo lì a guardare. Esattamente. Intanto che gli avvicinate, e questo è quello che era detto. Ho passato più chilometri di guardare un mulino. Resta così, ma il mulino ci incanta. Ok. Girano le pale. Bene. No, girano le pale. No, con ben girano le pale. Allora, c'è il vento. Sì, c'è. E perché non girano le palle se c'è il vento? No, ha detto che c'è la nebbia, quindi non c'è il vento. No. E poi ha detto che le tele sono strappate. Dal troppo esatto. Vento. Oh, troppo 21. 21. Non lo so. Cosa fa? Investigation. È l'unica che ha sentito. L'investigazione più attenta del mulino. È un po' come il background sta parte. Vi fornisce qualche dettaglio in più. Forse no, perception vuol dire, non investigation. Non è vero, hai fatto investigation, adesso descrive di nuovo, ma scusa. Investigation per che cosa? Per capire qual è la strada migliore per... Stiamo guardando un mulino. Per arrivare al mulino senza farci vedere. Hai appena dato fuoco a un carro. Io comincio a sbattere dei piatti urlando. Catta, ma non è per... L'ho data parecchio tempo fa. Non è per andare qui. Ma non che hanno scambiato. Signori, improvvisamente vuoi stare allerta. Investigation serve anche, c'è scritto nel manuale, controllato prima, per vedere i punti deboli di una caverna per farla crollare. Bacioni! Bacioni! Vedi i punti deboli di una caverna. Che carta l'altra volta quando tu gli hai trovare di fare cose. Perché carta è stato stronzo l'altra volta. E quindi bacioni! Mulino! Delle palle del mulino! E sbagliava la carta. Troppo vento! Perché l'altra volta io non ho guardato il manuale. Che cos'era? Tetta cipolla! Però nel senso se vuoi usare quel modo lì lo dovresti dire. Bacioni! Cioè, non ti può dire no, una detto. Porta segreta. Catto, ne vogliamo andare nel mulino, sì. Fatto a mano. No, io ho detto, uso investigation poi. Artigiani della qualità. Investigation devi sempre dire, perché, ma in realtà qualunque abilità comunque devi dire. Quindi investigation per capire se c'è una strada migliore tra le possibili per approcciarsi al mulino senza essere visti. Per investigare vuole tirare su investigation. Può tirare con vantaggio perché abbiamo l'ora. Ho fatto 21! Okay. Ho fatto 21! Una vittoria, grande Valdoria. Dai, perché ho fatto delle descrivi la mappa. Sì, ce l'hai fatta vedere. Noti che abbiamo il con il tetto a forma di cipolla. Quello è il punto migliore per bruciare il mulino, questo per realtà sto cercando. Quanto hai tirato su investigation? È inclinata su da una parte. Con 21 allora vedi anche quell'orso che sta sbattendo le porte all'ingresso del mulino, urlando. Ma quello è in perception, investigation non lo prendo, non lo noto. In orsese vuol dire scendete troie. Scusa, dicevi, beh, il mulino, vedi, noti che è inclinato da un lato. Non è tutto. Non è dritto. Quindi è una spintarella. Vedi tipo 140 gradi che c'è un muro di mattoni grigi. C'è comunque qualcosa di rosso. Mi ha stuprato il cervello. Sul muro di mattoni grigi sulle finestre dall'albero una coltre di sporco praticamente. Ma sai, scusa, hai nome e cognome di chi ha scritto? Per curiosità, questo tizio dovrebbe fare altro nella vita. Troppo descrittivo. No, ma tutte le avventure fatte sono così. Vabbè, descrittive. Servono per farti immergere nella No, no, sì, cioè, sì, però questa è in maniera. Beh, anche l'altra. Beh, no, è semplicemente che non siamo abituati. In realtà sono tre righe, però leggervele sembra così. No, passiamo no, delle ore no. Perché mi interrompete ogni tre minuti. Zitto! Zitto, Sceo! Che ironia! Interrompendolo sempre fa durare queste descrizioni delle ore. Allora, c'è una piattaforma di legno decrepita che circonda il mulino come se fosse una tettoia praticamente. Sopra ci vedete un passaggio, una porta che porta all'interno del mulino. Che ironia, una porta che porta. Esatto. E sopra l'architrave di questa porta c'è un corvo che vi... È nero come i cavalli di prima, quindi. Che vi gracchia contro e direste che ha un comportamento abbastanza agitato. Quanta distanza è? Accendo la torcia. Fate la domanda. Adesso sareste in teoria, fai conto, 120 piedi dal morino. Vabbè, dai. Con te è una cosa di una balestra? No, non interessa. Vabbè, champagne. Cosa vuoi sapere? No, la gittata di una balestra. Abbiamo montato la tastiera, però. No, ho paura di dirtelo, però. Al massimo sparo al corvo, non è che... Io so che vuoi sparare al corvo. È un amante degli animali, oggi si sente molto... Per me sono tutti segni di mostri. Un cavallo! Fossi in una campagna quella di Ema, che ogni animale da Exp, e anch'io avrei stuprato tutti da prima all'ultimo. Purtroppo no. Dalla anche famiglia, tagliato alberi. Mi ricordo che una delle cose che avrei messo le mani sotto per cercare delle palpe della terra. Ah no, è vero, non dobbiamo uccidere i corvi. Fortuna. me ne ricordo mentre sto per prendere la mira e metto via la palla. Qual era quella poesia? L'albatros. No. Quello che rimane al collo del marinaio. Potrebbero essere un corvo. No, però loro sparano con Maiden. La sì. Loro sparano con la balestra. Sì, ma era una poesia di Iron Maiden. Coleridge. No, c'era l'albatros. Sì. Degli Iron Maiden. Tale of the Ancient Mariner. Sì. C'erano anche i serpenti. Non è quell'albero. No. Sì, va bene, facciamo descrivere Cadmus, no? C'è sto corvo che vi gracchia contro. Cosa fate? Entriamo nel mulino. Mi nascondo. Catrafisci questi scontri. E le mani con due HP, no, i piccioni, altro, e i fiori. Vabbè, sappiamo che il mulino è un po' storto. È adesso un promontorio. Andiamo lì, lo spingiamo. Ma ci sgama di brutto, cioè non c'è un modo per arrivarci nascosto. No, la strada è scoperta. Crossbow light, che ci 80-320. Allora, se volete posso provare a... 80-320. Se volete posso provare a fare un giro 80. Io di ricognizioni. Se no tu non puoi diventare un uccello e volare vicino. Non buttiamo una forma selvaggia. Non può volare. Non è che fosse tipo a livello 8 qualcosa del genere. Ah, voilà, ah, quella gigante GS1. Chi se ne fotte, non può volare comunque, non puoi nuotare né volare. Cioè, quindi diventa una pila ma cammina. Sì. Che può volare? Perché puoi volare solo da livello, non mi ricordo. No, no, puoi. Madonna! Mi sembra che devi essere un merda, devo vabbè, diventa farlo. Un pesce nuovo. Ah, se volete però posso provare a fare un giro di perlustrazione nel mulino. Sì, dai, sarebbe nice. No. Serve questo per farlo. Ok. Però ho bisogno di un attimo di privacy. Dietro al mulino c'è una foresta. E appunto volendo se ma voleste... quindi la foresta è attaccata al mulino no c'è un po' di spazio tra beh, però due. Potremmo però circunnavigare corto, diciamo ovviamente la distanza tra la foresta e arrivarsi alla foresta sì, se potete fare un giro lungo e passare ok io propongo questo allora, sì, altrimenti sì. Vado io alla brutta dentro e poi io direi di far sta cosa poi tu fai l'esplorazione e poi da più vicino no sì. Mia esplorazione mi sgama cioè mi faccio sgamare apposta? E no flying speed, che cosa vuol dire, scusami? No fly, senza velocità di volo. E non puoi volare. Cioè, e puoi no fare... flying? No, puoi volare, ma velocità zero. Ah, ok, va bene. Dipende dal vento, insomma. Puoi rimanere, cioè, tu ti metti così? Praticamente, se diventi forma animale un uccello, sei o uno struzzo, un pinguino o un pollo. O un'aquila gigante, ma che non vola. Sì. Però e no, se si butta da un promontorio con le ali distese? La cosa ironica del pinguino è che se vai in alto trasformarsi in una creatura che ha una velocità di volare, la velocità di volare, quindi non può trasformarsi. Ah, ok. Ti ho detto puoi fare il pinguino, struzzo o il pollo. No, lo puoi che non puoi neanche nuotare. Vabbè. E il pinguino nuota. No, e non sa nuotare, entra in acqua. No, non puoi prendere un animale che ha velocità di nuoto, è diverso. Io posso diventare un'aquila e buttarmi in mare. Allora, se volete vado a fare un giretto dentro. Ah, io mi sono trasformato in un sasso noi dalla foresta tutti insieme, poi vediamo. Allora, giriamo pure per giù insieme alla foresta. Vedete che dietro al mulino ci sono quattro grosse pietre disposte in maniera regolare, tipo a cerchio. E quanto sono grosse queste pietre? Sono dei monoliti. Attacca. Immaginati Stonehenge. Non prendono. Vabbè, magari erano. Sono coperte di muschi. Magari erano più piccole e uno le poteva spostare. Ah, cazzo, allora sì. Invece sono quindi sono è tipo grosso. Un piccolo santuario. Da però, lì, da dove siete voi non credo in me, faccio. Cioè, prova... artificiale comunque, nel senso. Ci sono. Caccia un perception dalle finestre. Ci sono delle finestre nel mulino. Sì, ma non siamo ancora alle finestre. Sono chiuse. Sì, sono chiuse. Tutte? Sì. Mi avvicino, l'apro, torno indietro e faccio. Cioè, la faccio saltare. Faccio saltare il la porta è una. C'è una porta al piano terra. Vabbè, queste quattro pietre. Cioè, sono dei monoliti, li vedete in lontananza di più. C'è una porta. Andiamo nella porta, che cosa vuoi dare le pietre? Stiamo andando in un covo di streghe, abbiamo almeno un minimo di strategia. Hai ammazzato i cavalli urlando, cantando e dato fuoco alla carrozza. Che strategia vuoi avere? Sfondiamo la porta e diciamo scendete streghe. Potreste scambiarvi le schede? Tornerebbe tutto? Ho capito. Una domanda. Quindi rispetto a tutte le vostre investigation, description, blah. C'è solo un'entrata per il mulino? Sì. Queste prove di investigation servono per mettere a piacere l'anima sopra. Del giocatore di ruolo. Una piano sopra, però sono tutte opache, smerdose, roba del genere. Questo è il mulino. Cioè, sopra allora, la porta c'era il corvo che li gracchiava contro. Le cose rosse cosa sono? O entriamo in base, dei, se no. Dei camini. No, queste sono le finestre. Beh, entriamo. Cioè, allora, per me possiamo anche entrare dalla porta principale, tanto sono un paladino e andiamo addosso. Se no, se avete la voglia, si può provare a andare sopra per chi di voi. No, vado a vedere se c'è qualcuno di sopra. Porta, cerca ad arrampicarsi? Sì, se per qualcuno di voi che più abbia a farlo, perché tipo lui. Perché bisogna salire? Scusa, da dietro vediamo questi quattro megaliti. Ma c'è una mappa nera. Tu vuoi andare dalle finestre? No, posso aprire la porta e vedere chi c'è dentro. In che senso? Tu ci hai fatto vedere in fronte con la porta. Sì, ma è simmetrica come struttura. È uguale tutto intorno, a quattro lati uguali, a parte la porta. Vabbè, se vuoi fare un giro intorno comunque di condizione a cazzo sono con le finestre stare. Che danno alle quattro direzioni. Le bussiamo? Classico. Vado io, poi se mi vedete entro 10 minuti entrate anche voi. Ma un test sulle pietre? Che ne so. Non so, religione al massimo. Sì. Oh, magia. Se vuoi, religion, sì. Vai, religion. Dove? Sono dei megaliti e comunque dovreste analizzarli da vicino per capire meglio che cosa sono. Mi avvicino a una pietra. Passi così davanti al mulino. Non sono messe così le pietre. Non sono davanti al mulino. Dietro al mulino, l'ho detto. Ma tutte e quattro? Ma noi non abbiamo fatto il giro dietro al mulino. No, ancora. Non ho capito che cosa volete fare. No, facciamo il giro dietro al mulino. Cioè, continuiamo dentro la foresta e lo giriamo. Dentro la foresta, però ah, okay, quindi adesso andate dalle pietre. Sì. Ho capito. Siamo tra le... Siamo... Le pietre sono tra noi e il mulino. Allora, su ogni pietra vedete il scolpito, la, praticamente il disegno di una città. E ogni pietra è associata con una stagione diversa dell'anno. C'è la città d'inverno che è piena di neve, la città di primavera piena di fiori, la città d'estate con un sole splendente sopra di essa, e la città di autunno coperta di foglie. In che stagione siamo adesso? In autunno. Della nebbia. La stagione della nebbia, esatto. Non è sempre stagione. Ci sono diversi corvi che vi volano sopra le vostre teste. E ne vedete qualcuno che si sta mangiando un pezzettino di una... Ma senti, ma il mio pipistrello è tornato. Sì, è tornato. Il pipistrello zombie. Esatto. Mi ha detto. Ti aveva detto che ha cominciato a seguire la cosa e a un certo punto è stato, diciamo, assalito da uno stormo di suoi simili che lo hanno... Dove l'avevi mandato? Al mulino. Lo hanno cacciato. Fatto bullizzare. C'è un corvo che mangia un pezzettino di una pasta bianca che vi ricorda un po' quella. I dolcetti. I dolcetti. E quindi tipo degli occhi strani. Quindi Arci si butta. Lo voglio io! Esaminando il centro del cerchio di pietra, vedete che per terra c'è un piccolo bambino. Ciottolo sopra il quale c'è un bambino. No, un cumulo, una pila di denti di bambini. Di denti di bambini. Vabbè, a forza di mangiare dolcetti. La fatina. Dai, raga, è giusto il momento di pulire. Non possiamo lasciare che questa scempia vada avanti. Creepy. Vabbè, entriamo. Apriamo la porta e facciamo bacioni. Bacioni alle streghe. Bacioni alle streghe. Arrivate alla Dovete porta. Dovete comprare un po' di armi italiane. Fate mano nel nostro valli. Fate mano. Valli. Se cercassimo di portarle fuori. Armi belle. Pensavamo che le streghe fossero brutte, cesse, coperte coi tendoni. Invece è vero, invece sono brutte, cioè se guardate un libro pieno di soldi. No, lui è hipsterino. Io posso entrare, Regis? No, stavo pensando a tirarle fuori. Chi di voi, chi di noi sembra un bambino? Io posso sembrare un bambino. Beh, io sono un nano. Sei un cazzo di hipster con la barba. Merda, rega, vi devo insegnare tutto sull'arte del dissimulare. Sì. Tutto. Due ore che ve lo dico, se volete guardo dentro voi. No, facciamo un giro. Un'idea. Io mentre vado a vendere salla. E io volevo diventare la tizia, la vecchia. Aspetta, è vero. Entra. Se non ti apre lei, però. E se mi apre lei, sti cazzi. No, però se diventassi un bambino invece. Così mi prendono e mi ammazzano. No, però aspetta. Noi. Io l'avevo già parlato con la vecchia. Lui ha parlato con la vecchia, gli ha dato il dolcino, che potrebbe far finta di essere in cerca di una dose. Un bambino e lo scambio per della droga. E quando lei tira fuori la droga, aaaah, e la continua a picchiare. Poi, vabbè, cosa cambia di entrare? Che c'è l'effetto sorpresa più divertente. Allora tira fuori la droga, tu tiri fuori il distintivo. Tutto questo si risolve con la picchiata. No, possiamo cercare di portarla fuori. Possiamo anche fare un'alternativa. Tu esatto, stai come bambino, fai i versi da bambino. C'è una classica, lei tira fuori la droga, tira fuori il distintivo. Cioè, se non ci hanno già notato e se proviamo. No, sale, in realtà possiamo anche vedere. Magari entriamo, ci sono 70 streghe armate. E noi vabbè. Vi lascio il bambino, chiudo la porta. Io non sono un bambino. Hai capito? Sai, questo cane è uno straccio. Un minuto di silenzio per l'AS che è impegnato molto fino al primo e non può farmi il biglietto dell'aereo. Ok, però se serve lo farei prima di Natale. Poi sono tutto impegnato fino a lui. Capito? Non può farmi un biglietto aereo, è troppo impegnato. Ciao Las. Ciao Las. No, sicuramente non ti segue, è troppo impegnato. Sì. Proprio impegnato. No, forse che cazzo è? Se si è no, drogato con facendo, Ema. Stava facendo il biglietto, quindi secondo me adesso si diverte. No, non deve fare. Ma che biglietto deve fare? Non stava facendo un cazzo. No, vabbè, adesso starà bevendo al piccolo. Ti ha contagiato. Lavorando. Ema. Lavorando, mercoledì. Ragazzi, io sono troppo impegnato per leggere questa chat. Sì, esatto. È lo stesso livello di cose. Cioè, deve fare un biglietto, mette un numero di passaporto. Vai, dai. Fare, ok. Comunque cerchiamo di portarle fuori, no? Tipo? Tirarle fuori secondo me può funzionare. Proviamo anche le creande che vendiamo altri bambini. Se tu ti oltre metti... a lui dico che ho fatto altri bambini da vendere. Se tu ti metti con lui davanti, cioè tipo a 15 metri dalla porta e comincia a urlare. Ehi, ho un bambino per la voi! La mia dote! Ah, come dove siamo adesso ci sono le pietre monolitiche sui lati del c'è marito, una cosa con dei denti di bambino sì. Che ovviamente è più recente. Lo prendiamo in un fuoco incrociato? Esatto, gli facciamo fare la fine del mazzo. In realtà qualcosa in realtà fa tipo pasta che distruggono i denti tipo pestelle sono messi lì diciamo disposti accanto alla porta in maniera ordinata come se fossero loro ci percepiscono tipo streghe ossa va detto che con lui comunque sono rituale una roba di genere anche secondo me tra i corvi cavalli carrozze fuoco beh no perché hanno un significato avvicinato alle pietre basta secondo me i corvi quelli che ci hanno visto che ci traevano contro qualcosina magari sì non sono 20 bambini così a caso sono stati disposti apposta beh siamo rimasti dentro la foresta sì però a ragione lui forse i corvi sono loro occhi magari i corvi ce ne sbattiamo e andiamo via dai facciamo sta gag è divertente comunque. No in realtà siamo non possiamo andare a cena dal conte ma va là sì, no, è stato. Dai facciamo sta gag se escono fuori allo scoperto bene se no andate lì sì. Bussate poi andiamo Arti e Salla bambino bene. Si mettono tipo a 15 metri dalla porta del mulino cosa no, credo proprio no perché entriamo no, ma così volevamo provare a tirare fuori riusciamo sì, a far uscire noi... bussiamo alla porta però. Io mi oppongo a tutto questo piano. Dai, vede che io faccio il capro espiatorio. No, ma se state fuori, siamo lì di fianco. Aspetta, perché se tu bussi, magari ti vedono di no. Se invece comincio a urlarli da lontano, magari qualcuno esce. Boh, vabbè. Le mie doti attoriali non possono essere. Cioè, una volta che entrate, noi non vi vediamo. Vabbè, allora proponi tu un piano, Race. Io vado vestito da vecchia e vedo cosa c'è all'interno. Però non è... allora non è più rischioso? No. Se no, aspetta, fare questo piano. Ti ricordo. È molto più complesso interpretare una vecchia che interpretare uno stupido bambino. Se no, potresti interpretare uno dei genitori del villaggio. Ti ricordi com'era? Tir fuori la testa. No, non c'era. Più che altro era per non farti fare da solo. Provare a tirare fuori. Però non posso imitare la voce dei genitori. Perché non li ho sentiti parlare. Mentre la vecchia sì. Va bene, sì, dai, se Ray. Con 20 secondi. Li ho sentiti parlare, imploravano aiuto. Cioè, quello che volevamo provare noi era tirarle fuori, non andare dentro noi. Vabbè, Race, se ritieni che questo sia la cosa è più rischioso, cosa vuoi? Vabbè, in effetti, vedi tu quello. Prova, che però, magari se hai bisogno di aiuto, forse dovresti devi trovare il modo di comunicare. Esatto, però. Che cosa facciamo? Cosa c'è di lui? Salvaggio Salla che la porta. Senti, se la porta quanto è. Aiuta! In sostanza, sì. Cioè ora che dopo noi eventualmente riusciamo a comunicare col tuo pipistrellino a distanza. Quindi io tipo posso io stare lì dietro sì. E poi arrivare voi, no. Davanti. Parlare se con l'animale. No, cioè, vabbè, se ci schianta addosso. Esatto. Se gli dici di cominciare a mordere lui. Cioè, vabbè. Ok. Voi avete la certezza che una volta qua. Che la porta si richiude noi possiamo entrare senza assolutamente no, ma lui vuole fare sto piano e quindi allora facciamo questa cosa del bambino, dai. Perché se ti devo sempre abbassarmi a interpretare sta merda. Metti anche che banalmente usi un incantesimo per chiudere la porta. Metti poi anche dal vestito uno dell'inquisizione e dire streghe, lo tempo è finito, però. Nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola. Ma sono streghe, bruciamole. Perché non è quello non serve un travestimento. Perché poi ci sono dei bambini, ma non lo sappiamo. Vabbè, dopo i cavalli. Hai capito? Se vogliamo fare quando vogliamo, allora ci gira le credenziali dell'account. Perché sennò lo fa quando vuole lui. Non ha il nostro numero di carta d'identità, non ha il nostro. Che cazzo dici, Las? Scusate. Ciao Las. Ciao Las. Ti vogliamo bene. Ho capito, dice cazzate. Subito litiga. Quindi, no, cosa fate? Sì. Dai, loro si mettono. Io non busserei per ora. Provate a parlare, cioè urlargli a distanza. Per ora. E poi vedi se ci sono reazioni. Se no, vi avvicinate. Cioè, questo è il tuo piano. Ehi, ho un bambino. Allora, Race, visto che tu Devi praticamente far da esca, decidi tu cosa fare. Facciamo l'esca, dai. Bene, come vi disponete? Divento un bambino. Divento un orso. Che è come divento io. E mangio il bambino. Divento un bambino. Quello che è da Irina. Ok, descrivimi come fai a diventare un bambino. Disguise self. Ok. Vabbè, Laz starà con Irina. Prova a imitarne la voce che ho sentito parlare. Ma quindi noi dove ci mettiamo, Regiz? Per l'altare della foresta pronti ad intervenire. Quanto dista la foresta dall'ingresso? La foresta disterà almeno 200 piedi. Mi sembra lontano. Ma possiamo parlare in metri, catta porco giù da questi piedi. E vabbè, tanto sono 30 piedi di movimento normale. No, i modi sono 5 metri, se sei notato. Allora io sono pronto. Quando volete possiamo andare. Mettiamoci di fianco al coso. Io pensavo da dietro, dalle rocce. Metterci di fianco al mulino. Le rocce quanto sono dall'ingresso? Però non vediamo l'ingresso. Le rocce sono più vicine. Però sono dietro. Signore, comincio a urlare io. No, noi passando dalle rocce ci mettiamo attaccati al mulino. Ma non vediamo l'ingresso. No, ma sentiamo. Aspetta, e lì possiamo in un movimento ci arriviamo. Le rocce, fai conto, saranno a 90 piedi. Sono comunque tanti. Sì, l'unico problema è se loro ci possono percepire. Nel per me loro ci stanno già percependo. Reia, io non posso stare così tutto il giorno. Andiamo. Io comincio a urlare. Morganta! Aspetta. Decidiamo dove ci mettiamo. Ok, ci proviamo a mettere sui lati del mulino arrivando dalla... Ok, vi mettete tutti insieme. Lo faremmo in stealth, però... Se siamo tutti schifo in stealth, però ci proviamo. Io sono azione bravo azione di gruppo. Beh. Siamo in tre, due devono passarla. Aspetta, ci possiamo dividere, se no? Siamo noi tre, sì, lo so, però è una... Si fa comunque di gruppo anche se... Stealth facciamo tutti cagare, giusto? Potete decidere come fare. Assolutamente. E quindi conviene farla di gruppo, perché almeno due... No, aspetta, perché? Perché se due su tre la passano, la passiamo. No, perché faccio anche gare? Scusa, io no, più due di rispetto. No, ma... È perfetto. Però... Io ho svantaggio, giusto? Sì, anche io. Mio furtività ho 7, come posso fare che io sono da solo da un lato. Quindi se tu passi puoi farlo benissimo. Io faccio 7 però totale. Molto bene. E non hai svantaggio. Facendo stealth cosa ho svantaggio, faccio comunque più di te, pezzo di me. Ovvio. Wow. L'inspiration posso decidere di usarlo. Che bello questo piano. Era uno stealth. Giulio, 7 per annullare lo svantaggio. Hai vantaggio, quindi ma tanto non l'ha passata neanche 7, lui. 7-9 Giulio, tira. No, tira e basta. Anche vediamo. Perché tanto secondo me ci stanno comunque già vedendo. È bella la... sta scusa. Comodo. No, secondo me sì. È un tiro di merda, ma ci ho visto prima. Secondo me quei corvi... Beh, allora niente. I corvi non mi sono più filmare. Avrei fatto anche un 20, invece un 5. Oh, 5. Quindi sono quello più... Che ironia. Con due svantaggi abbiamo perso la prova di stella. 7. 7-7-9. Ok, siamo nascostissimi. Che ironia. Svesto un'armatura pesante e la gente mi sente quanto passo. Quindi tu ti metti fuori a urlare il nome. Sto di urlando Morganta. Davanti alla porta. 90 la paura. Vabbè, però magari se loro urlavano noi non avevamo svantaggio. Esatto, io cerco anche di coprire le loro. Anch'io cerco di coprire la loro. E intanto ti zitto bambino, mi servi per comprare la mia droga. Morganta. Perché sono un drogato io. Sì, sono. Quanto sei distante dal loro mulino? Non tanto, in realtà sembra che sia tanto metri. Perché sta urlando, ma stiamo tipo un passo. Minchia, è arrivata la polizia. Se vuoi ti faccio una prova per di disguise per dire che sono un bambino. Non me l'avevi già fatto, fallo. No. Cioè, io sono un bambino, però per imitare le fattezze del bambino, ovviamente ho vantaggio perché sono un attore. Sembri un po' il maestro. Che tiro di me, questo è bilico. Un tiro di merda lo stesso. E, 13. Okay. No, non ho fatto 12, ho un 7 e l'ho spinto con l'altro dato. Ho merce per ho pane per i tuoi denti, per la tua dentiera. Voi che ciao, avete avuto l'idea del bambino, prendetevi inspiration perché è molto divertente. Ma chi l'ha avuto l'idea del loro due? Master, anch'io l'ho avuta. Io l'ho realizzata. Sì, l'hai realizzata. Io non so cosa sia, però, Reus Inspiration. Si può vendere? In realtà no, quello che la butta è lui, puoi regalare anche. È zitto, ho preso un la butta su... Ma dai, ma lui l'abbiamo costretto, aveva avuto un'idea di merda. Un buon piano, anche se proposto, ma poi riconosciuto. Lo segni qua? Sì, l'abbiamo obbligato, ripeto. L'abbiamo obbligato, decidi tu quello che vuoi. L'ha avuta lui e Vez l'ha appoggiato dicendo ha anche parlato con la vecchia. Per annullare uno svantaggio. No, Giulio, scusa. Per avere vantaggio. E basta? Sì. Ah, ok. Sì, però non so, forse la puoi usare anche come flame. Oppure per bullarti su Shell in questo momento. Io però non mi ricordo. Normalmente ti dà vantaggio. Ma tu ce l'hai, imbarazzato. Volendo puoi decidere di regalarla a un tuo... Sì, tu dovresti regalarla a loro che hanno avuto veramente l'idea. Ma adesso la strega esce e mi ammazza. Che cazzo di idea devo dare? A parte che noi siamo lì davanti. Come interpreta il bambino, scemo. Cioè, sì, no, come utilità sì. Allora. Però l'inspiration in realtà che il master sta parlando davvero in gioco, è per quello che ho fatto una presa di una prova di merda, perché mi sta dicendo: non è possibile che il master ti abbia dato l'inspiration. Esatto. Il mio personaggio di così, no, sono d'accordo. Callo, callo. Cioè, è una cosa che il master dà in maniera abbastanza rara quando c'è appunto un'ottima interpretazione, una bella idea. E non è questo il caso. Avete detto ottima interpretazione? Morganta! Cioè, tra l'altro, lui che sta facendo il druido contro gli animali, tipo. Ma non è che oh, non ho il cinotto, è diventato animale. Improvvisamente carnivoro. La legge della foresta. Se passa Giulio muore. Non mi risponde? Sì. Aspetta, hai sentito che ha dato l'inspiration a Katta e. Ha funzionato? No. Aspetta, ha dato l'inspiration a Katta e Salla per l'idea. No, ha dammi la data veramente. L'ha data a Katta e Salla. Scusa, darci a Salla. Mi do da solo. Cioè, ha dato a Salla l'inspiration per l'idea. Come l'abbiamo obbligato a farlo. Com'è la tua? Cioè, è una grande idea. Ma la vota lui! Cosa vuol dire? Che se fosse stata un'idea tua sarebbe stata un'idea di merda. Ma è un'idea mia, una grande idea. Ma non è un'idea! Non l'ha avuta lui l'idea. Sta cosa mentre io lo dicevo. No, sta cosa comunque è già successa. Io non ho capito perché tu ti lamenti sempre. Grazie per questo che cambiano le leggi sul copyright. È già successo una volta che Katta avesse tipo un'inspiration a qualcuno per un piano che non era suo. Secondo me... detto io. E io specifico che il piano era mio. E secondo me l'inspiration l'ha data Sceo. No, lui ci sta. No, io l'ho detto la cosa. Lui ci sta. Uno di quelli a cui è venuto in mente e voi l'avete appoggiato dicendo è vero, lui ha anche parlato con la chiave. Lui ma è vero cosa? La potete fare perché io la posso fare. Che cazzo volete? Ma chi c'è una vera cazzo inspiration? Andiamo avanti. Esatto, poi è un vantaggio da usare in combattimento. Esatto, meglio per lo spioncino della porta che si allora arriva. La mia inspiration la regalo a Vez. Oh. Oh. Allora no! Cioè, ce l'avete tutti, quindi. Sì. Tranne Shea. Ma ti la devo dire. Tranne te, sei un bidet, cordon bleu, in bacioni. Prossimo PG come obiettivo a quindi e tra l'altro l'esperienza strancione e tra l'altro volevo dirti è così che si gioca l'Arcane Trickster. Burn vedi questa l'esperienza fatta a mano nelle nostre valli. Bene, io avevo fatto la si apre lo spioncino della porta. Ciao! È quella che ha di fare quello spioncino di italiano. È quella cosa che fa che parla inglese. All'interno la voce del vecchietto. Giulio perché ha raggiunto ti urla contro. Chi sei? Che cosa vuoi? No, l'ho avuto sono dentro la casa. Ci siamo conosciuti al villaggio. Mi hai dato quel buonissimo pasticcino, ti ricordi la prova gratis? Ah, perché ho fatto la tua elegia funebre. Ho capito perché era gratis. Ti è piaciuto? Meggera. Ho preso un bambino qua. Questo ciao, infante. Sono un bambino. Ho fatto una prova di merda. Per coprire un po' la voce di Salla, li tiro. Quindi è più un ciao, sono un bambino. No, vabbè, ho fatto una prova buona, abbastanza per imitare un bambino, ma non per imitare quel fammi bambino. Ora girare per vendergli il fatto che. Cosa vendo? Il bambino. Cioè, in realtà ho fatto 13. Vabbè, ma io lo voglio vendere veramente, però. Vorrà girare sul carisma. Sì. Sa che l'inspiration va via. Lui dà il vantaggio lui. Ah, 11. Ok. Senti che prima ride... che arrivi la polizia. Senti che ride e dice vieni dentro, è sempre un piacere avere un nuovo cliente. Chiude lo spioncino e socchiude la porta. Io allora vi raggiungo dopo. Prima parlate di cose da zitto, straccione. Dai, fuori, ovviamente. Ho più lo straccione, volevo dire lo straccione. Io lo straccione. Ma certo, no, veniamo dentro. Tirala fuori. Eh? per l'inspiration, per il piano, il piano era tirarlo in fuori. Ormai hai preso l'inspiration, ho capito, l'inspiration per il piano. Potrebbe cercare di convincere lui la vecchia a uscire. No, vabbè, vai, fai per entrare. Fai per entrare. Esatto, tu, esatto. E adesso te lo porto dentro questo bambino. No, non voglio entrare, non voglio. E si vede noi, e si vede noi. È fortissimo questo bambino. Vecchia! Mi servono sui giorni di braccio. No, aspetta. Tutto ciò, Irina, che mi cazzo fa? Irina è da Siena. È nascosta con laser. Io... Esatto, perché mi cacciano in piedi. Sì, vieni bambino, ti porto dentro. Con buio delle palle, perché sono alto tipo così. Vabbè, ma lui è un nano, eh. Vabbè, sì, io sono... Ah, sono allora mi cacciano le palle. Mi dico, Morganta, non poteste darmi una mano a portarlo dentro? Come hai fatto a portarlo fino a qui? Non può crederci. Ho visto quella vecchia dentro, ho paura. L'ho convinto che non era per essere venduto nelle streghe, ovviamente. Dai, non posso credere a tutto questo. No, beh. No, ho visto che ho promesso i giocattoli, io non ci ho adesso visto. Ti porto i giochi. Morganta! Che seccatura. Aspetta. vedi che entra in realtà. Torna dentro la... Non è uscita, però... Sono sentato strega armato. C'è un fucile, però... Questa è la mia proprietà. La sentite borbottare. Soprattutto in realtà voi, perché siete tipo lì dietro al muro. E, esatto, se appoggiate l'orecchio sentite i passi che vanno dentro. E li distinguete tra rumori di cose che rivolgono. Sentite il fuoco che sta scaldando. Ah, ma quindi è sottilissimo. Tutto cioè, pronto per il bambino. Se appoggi l'orecchio, riesce a certi rumori che riesce a sentire. No, non attivo Giulio. Peccato. Ero già passato al piano A. No. Il piano A, non è neanche il B, è il piano A in realtà. Sentite lei, sentite dei tre bussi. E poi io una specie di bum bum bum bum bum bum. E qualcosa che si viene riversato a terra di liquido, come se fosse del liquame. Qualcosa, un secchio di liquido che si rovescia. E poi, come poco dopo, dei passi di una specie di quadrupede che vanno verso l'uscita. Gli lancia salla e comincia a correre. Ah, guarda. Loro lo sentono. No, loro no, lo sentite voi. Ho il gatto sul fuoco. Perché noi no? Loro no, noi tu sì. Tu lo senti? No, non lo sento. Devo loro. Dare da mangiare al pipistrello. Beh, allora in braccio la balestra. Non ci cambia l'acqua il pipistrello di solito? No. Io lo spadore. Non so, non ho mai avuto un pipistrello. Non posso di dire cambiare l'acqua al pipistrello. Mi posso mettere dalla porta? In questo caso no. Cioè tipo di fianco. Cioè non è un fianco alla porta. Ma se spalla al muro. Cioè posso farti se qui è la porta, no? E il mulino, il muro del mulino fanno così. Noi siamo lì fuori e vediamo la faccia inorridita di Sheol sulla porta. Fianco, tipo... Esatto. Puoi avere tiro su uno che io sto ancora dicendo no, fuori dalla porta, così, no? Sì. Però sì, cioè, anche da dove siete. Ma che dico, adesso esce sta bestia. Nel senso, faccio qualche passo a rasente al muro e prendo... 30 anni che deve uscire sta cosa dalla porta. Prendi? Cosa hai fatto? La sto andando a cercare. Ho fatto qualche passo in avanti, rasente al muro, ho tirato fuori la balestra e la sto puntando verso la porta. Ma la finestra è a portata, volendo per sbirciare dentro. È al piano di sopra la finestra. Ah, questo non ci sono piano terra negli altri lati della... Ah, ok, allora niente. E allora sì, vabbè, mi appropinco anch'io alla porta. Non so se io sono dall'altro lato o lo stesso, non abbiamo deciso. Oh. Oh, facciamo che io sono da una parte e voi dall'altra. Sono, non so. Esce questo. Sì, il gorilla. Ma no, la mosca. No, quale, scusa? No, perché abbiamo tutti visto il primo e tipo, ok. Beh, che ma esce dalla porta che, non sono che comunque è challenge easy. No, ma è un quarto. I giocatori di merda. Esatto. Vabbè, sentite lei che urla fatti aiutare da Borg. 18 HP con l'affare. Ah, che schifo. No, era mandato fuori per aiutarti col adesso ci starebbe che nella lotta cercando di prendere il bambino lo uccide nel sbaglio. Avrebbe senso. E questo demone che cammina tipo un gorilla. Aspetta, Morganta, chi mi assicura che dopo che io lascio il bambino a questo demone che cammina come un gorilla mi arriva la mia dose? Dretch si chiama. Dretch. Ma mi hai detto tu che vuoi una mano? Tu ti aiuterà. Prima la lampada! No. Ma quindi il demone sta uscendo e sarebbe sotto tiro, mentre Morganta ancora no? È dentro la casa, ovviamente. Non ci voglio andare con lui! La porta si è richiusa. No, è adesso chiusa la porta, è appena uscito. Arriva, facciamo un blitz, facciamo un blitz. Sto coso. Io e Sala sgozziamo sta merda di cane, intanto voi vi lanciate dentro... urlando, sì, che te porta potrebbe andare. Essere un buon momento. Solo che noi non possiamo dirglielo, quindi. No, io dico, vabbè, no, in realtà noi siamo lì, quindi. Allora noi siamo di fianco alla porta. Cioè io lo vedo. Basta che fate un gesto e noi vi vediamo. Va bene, adesso lo portiamo dentro, la porta è socchiusa, vero? Lascia la porta socchiusa. No, non fai notare che è aperta, che magari la chiude. Eh no, perché lui mi lascia. Cioè, io, si vede che è aperta, no? Sì, la vedo. Mentre esce qualcosa e loro lo combattono, noi entriamo e ci diamo la strega. Esatto. Giusto. Sperando sia l'unica. E se sono troppe streghe in sala, dove aver ucciso il coso, ne chiude la porta. E dia fuoco al muro. Esatto. È tipo il mio piano, però. Quello prendiamo Irina, portiamo dal conte e vaffanculo. No, perché magari ci sono dei bambini dentro. Ah, sì, ci sta, è il momento. Ci sta, dai, sì, i bambini dentro. Ce n'è uno anche fuori. Iniziativa. Iniziativa. Iniziativa. Disponi i segnali. 7 io. 5. 19. Ma tanto tu devi fare solo il bambino, però. Grace? 7, 12. Da me la coltello. Io 15. Oh mio Dio, ma non è un bambino! Fai così. E lo mi ammazza. Ma dove... Hai fatto 12 tu? Io 6. Io 7. Sì, io non so. Io 7. Ah, che ti quello per... C'è anche Shell? Sì. È il secondo. In che senso c'è? Sono qui. No, che non li aveva fatti non c'è. No, ma l'ho scritto io. Io ho scritto il suo, quello di Laz. Io ho scritto il mio, infatti su tutto quello bello. Il mio è no, aveva un cazzo di bavolo idiota, avrebbe bello. Scritto la stessa cosa. Avresti fatto una X. Esatto. Sono bello, come si sta. Sì, però solo ancora stai diventando troppo il maestro, con questo personaggio. E prego. Guarda, raga, c'è una cosa perché sì, io sono un attore e c'ho il talento. Lo so. Facciamoci una foto prima. Mi fa paura, sembra il maestro. Bella lui. Preso apposta per fare puoi prendere anche l'alberino in mano per la foto. Sai, c'è il tizio di coso di side quest che mi ricorda troppo Ema, quello fa il bardo. Dai, eh. Straccione. Ho visto Salla, stai tenendo il cappello in maniera ormai. È la foto sempre strana. No, fermi, ve ne faccio anche una dell'altra. No, quello che fa il bardo quando parla. No, mi ricorda troppo. Roberto. Grazie, no, per il fuoco. Una side questa, non mi ricordo. Il bardo. Sì, perché lui parla tutto in dizione. Esatto. Poi fa anche la filastrocchina inizio. Quella figa. Sì. Aspetta, ve la faccio da qua. Merda, pezzo. Ne ho visto fotografi più lenti io. Visto che ho la cosa col dito. Mezzo bloccato il video. No, è caduto, vedi. Si è bloccato il video. Il mio cappello. Dove adesso vediamo se è bloccato. È stato lento. Che ironia. No, ci è venuto troppo male. Catta, guarda. Ma ora si è sbloccato il video. Ciao. Ora vedrai il mio cappello cadere nel video. Dai, Mezzo. Ora vedrai il mio cappello cadere nel video, sarà molto triste. Oh, hai visto? Si è proprio visto così. Sì, triste. Si vedrà di nuovo perché finisce. No, il cappello. Grazie. Questa cosa si stanno. Che? Sei ribloccato. Si frizza. È caduto di nuovo. Chi è che sta ciucciando la rete? Chi è che sta leccando il modem? Cioè io, però non sto usando. Stai leccando il modem, Bravo. Sì. Allora, io ritardo l'azione a quando lo stronzo non mi sta prendendo. Il primo che agisce è il Dretch. Vabbè, dai, perfetto. Tacco di opportunità. Ma non siamo ancora in combattimento. È vero, effettivamente il Dredge non sa che vuole attaccare. Non è. Cioè, noi ancora non l'abbiamo attaccato. Vuole venire a prendere il bambino. Nel momento in cui volete attaccarlo, lui agisce prima. Ok, vabbè, arriva verso di me. Cos'è questa falsità? Catta quanto sei falso. Ma chi è? Aspetta, non abbia, nessuno è ancora ostile. Nessuno sta attaccando. Ma poi lo sarete, lui agirà prima di voi. Pensa che gentile. Cosa inspiration al Dredge? Che ironia. Che ironia. Ha fatto, ma, ha fatto 30 in iniziativa ed inizia prima di voi. Scusa, ma chi ha detto che noi attacchiamo in questo turno? Magari lo attaccherete dopo, prima o poi lo attaccherete. Ma non ha senso che lui attacchi. Vabbè, prova ad attaccarlo, magari c'è. Ma passato fa il master te, l'ho capito. Vabbè, ma è. Ma fallo attaccare. Ha ragione Let's comunque. Secondo me la prossima volta fa il master share. È vero, devi farlo tu. No, ormai l'ha un po'. Beh, tanto è 25, la fai tu da telefono. Ci vediamo a pranzo. Il Dredge arriva a prendere il bambino. Cosa fa? Io uccido il bambino. No, uccidi. No, è bravo. Se lui no, canta, si fa in ordine di iniziativa. Scusa, appunto. Allora, che lui viene prima. Quando lui ha fatto il Dredge, allora tocca un altro. Dopo quando lui mi prende, mi fa per prendermi. Io voglio tornare normale e infilzarlo. Ok, lui però è più veloce di te. Quindi ti dà una ceppa. Però non se l'aspetta che io diventi umano, cioè un uomo. E che tu non hai preparato un'azione. Cioè, non hai avuto tempo di preparare un'azione, credo. No, perché nella 5.0 se ne fotte. Se sei prima iniziativa, lui sa già cosa farai tu. Però anticipa la tua mossa. Cioè, praticamente io divento un costo per infilzarlo e lui mi tira uno schiaffo. Okay. E poi però lo puoi infilzare. Però perché lo schiaffo. Vabbè, tecnicamente, effettivamente, è già un po' ostile nei tuoi confronti. Ce ne no, venire no, per ma ha senso perché ha riflessi più veloci. Quindi io sto per attaccarlo e lui mi picchia. Ha avuto culo, ho fatto un 20. No, no, ma ha senso. Schifo è! Ah, voglio vedere se toccando con la lingua solamente un pelo. Però lui percepiva col pelo la mia lingua. Esatto, ho visto questo così. È la funzione dei peli. È una cosa molto povera. La funzione dei peli. Cioè, lui, io toccando solo il pelo, lui ha sentito la mia lingua. Senza che toccassi. È la funzione dei peli. Cioè, i peli girano. Unghiato qua. Che cazzo è? Però io metto il no, sta muovendo, sta spostando. Si è frizzato in quel momento. Sono quei video tipo di Quark. Quattro danni. Si vede tipo la preda. Quel momento. Prego, no, immagino non sia furtivo. In realtà c'è di fianco a te un alleato. Che immagino sia lui, siete uno di fianco all'altro, no? Quindi necessariamente hai un alleato entro 5 piedi. Va bene. Anzi, siamo per, io lo sto tenendo per mano, quindi cioè, se lui tira da una parte, io tiro dall'altra. Stocco. Allora, 11, 16. Guarda Salla che si mette, c'è la sega. E con la spada. Cosa? 14. Danni. No, no, per colpire con la spada. Ah, hai fatto due attacchi, colpisci. Allora, sono un D8. 1 di 6 e 3 di 6. Ma in che cosa? Eh? Ma ad Oscar! No, video, c'era Sara che è stato tipo. Ah, forse per il dado. 27. Okay. 30 danni. Esplode. Zatama! Cioè lui è lì, fa. Vieni bambino! Io. Tecnicamente puoi tornare bambino, la vecchia non ti ha visto. Non può tornare bambino. No, nel senso, aspetta. No, non posso un'azione. Oh mio Dio, questo bambino ha ucciso il drago! Ma un adolescente. Cioè, voi potete aspettare arrivarvi, ma io sono un cazzo, una sì, cazzo di persona molto bella. Con possiamo fare la quattro tutti spade insieme, infilzate su un tizio. No, cioè, a chi sta? Che no, mi adesso lei ha dato da un momento che sono due cosi che escono dalla testa del suo demone. Dai, però la porta è chiusa. Vabbè, allora entro e punto alla vecchia se la vedi. Entra, pom! Fulmine. Fulmine. Vabbè, comincio a muovere, sono di fianco alla porta. Te lo immagini? Apro la porta, cosa vedo? Allora, cosa vedi? Sono altri 12. La spada corta fa un D6. Sì. Infatti ho stocco e spada. No, sbagliato. Allora. La mia libertà. Piano terra. Praticamente il piano terra fa di fatto una, come se fosse una cucina, diresti da campo, ma perché appunto sono particolarmente disordinate. C'è pieno di ceste e vecchi piatti sporchi accumulati ovunque praticamente. E, c'è, vedi, dei resti di pollo, una grossa panca di legno e un armadio con dei fiori disegnati sulle sue porte. E, oltre a qualche, come si dice, il verso del pollame, sono dei polli che girano per terra, senti anche il gracidare di alcune ranocchie che non vedi ma se senti, e l'aria è piena del dolce odore delle, dei dolcetti. Mi piace pensare, tipo Scio che entra, tipo, ma ti ammazzerò, ma devo stirare, da dove vengo? Certo che quest'aria, devo dire che... Beh, come se l'odore lo puoi sentire, sì, evidentemente. C'è un... senti anche un terribile odore che viene da questo grosso contenitore, un grosso barile al centro della stanza. E c'è un forno acceso da cui l'odore che arriva dal barile mi dice qualcosa. È simile all'odore, è l'odore del uguale a quello del demone che è stato appena infizzato. E, contro il muro c'è una scalinata, non a chiocciola, però insomma semicircolare, non fa la chiocciola completa, però costeggia il muro che va verso il piano superiore. E il cielo che c'è solo dentro, non lo so, questa rame in teoria c'è per terra, noti che è pieno di un sacco di piccole ossa umane, piccole. Ci devono i bambini, cioè. Dei nani, magari. Perché dei nani? Quindi. Sarebbe un po' grosso. Io sono. È una miniera. C'è nani. Vabbè, Scio, sta a te comunque. Non so se c'è Morganta davanti a me. Non vedi una strega. Non devo dire che è una strega. Abbiamo scoperto due puntate che è una strega. Okay. Quando sono dentro tutti, salti dalla porta. Da dove sono? Scappo adesso. Cioè, il piano di sopra è completamente invisibile, nel senso è tutto coperto da solaio, c'è cioè una ringhiera magari. Non ci sono dei buchi, no. Ok. Niente, sono entrata ma Morganta non c'è, quindi... Come non c'è? No. Ah. Quindi sposta. Probabilmente nei piani superiori, ecco, però... Ecco perché ti stavi concentrando sull'odore della cartapesta. Vabbè, faccio qualche passo dentro, mi avvicino alla scala e aspetto gli altri. Ci noti che c'è una... una scaffalatura, una statua a forma di strega, dalle quali sono appoggiate sopra varie boccette con delle etichette sopra. In un etichetto c'è scritto giovinezza, in un'altra c'è scritto quanto risate, è bella, scritto risate, e nell'altra c'è scritto che si fugge tuttavia latte di madre. E quindi non c'è anche quella del domani, non va certezza, nulla di inquietante, insomma. Il pollaio, cioè dove ci sono i... No, perché se c'era una tipo forza brutta e la bevevo. Le galline che sentivi contiene tre galline, un gallo e alcune uova. Mangio le uova. Oddio, adesso Giulio comincia a ammazzare gli animali. Perché? No! E il druido dice, ma vabbè, sono animali. Cosa fai? La tua azione. In realtà... Cioè... Comincio a fare qualche passo su nella scala, però pochi, giusto per... Cioè faccio qualche passo ma intanto lascio entrare gli altri. Non voglio staccarmi da loro. Quindi arrivi all'inizio della scala. Sì, okay. Per non staccarmi da loro. Dovrei dopo muoverci Scio, insieme. Ragazzi, però c'è... Cioè, quindi cioè vedo anche il calderone, giusto? Se entri, sì. Sì, no, entro ovviamente. Cosa vede, cosa sente? No, basta. E no, voglio sapere, quindi c'è il calderone. Anche perché eri di là, non so se hai sentito tutto. Ho sentito abbastanza. E l'unica è andare su. Ah no, aspetta un attimo. Qui ci sta un bel perception per vedere se c'è una botola. Cerca una botola. Ma in realtà è magico che è diventato invisibile. Ah, giusto. Ma posso fare il ciccio? No, no, no, io non posso sprecare incantesimi per questo. Frizzato. Eh? È frizzato, Arci dorme. Aspetta, non è il mio turno, raga, sto... frizzato, è Arci che è frizzato. E... faccio intanto un perception. Ah, ma è frizzato. Dai. Non fa, non lo so. Bellissimo, non fa, sei. Bacioni. Se non troverò niente, immagino. No, ho mangiato metroli delle botole in questo piano. Vado, comincio a salire la scala. Con spadone in mano. Ok, quindi passi buona davanti parte. A Garrosh. Sì. Ok. Ne avevo fatto salvare i bambini, farebbe di tutto. Beh, in teoria sì. A differenza di a altri. Anche quando sì. Sono in uno scantinato, eh? Quando sono in uno scantinato nudi in difesa, la cosa importante quello è ammazzare. Quello è un cazzo di progetti vampiriche. E ho promesso che la risusciterò. È più importante salvare la progenie che due cavalli indifesi. Penso che lo tirerà avanti fino all'ultima sessione. Bene, se ci arriverà. Cosa ne pensi dei polli? Fai 3-4 passi su per le scale e dalla cima senti la voce della strega che dice: ma che cos'è questo casino? Maledizione, dove devo portare questo bambino, no? Si affaccia da esce e ti maledice. Dal qualcuno ha parlato di maledizione. Si è fatta girare dal piano di sopra. Dal secondo piano o dal terzo? Vabbè, non lo vedo. Sì, veramente. Se sta strega seccata si è fatta raggirare da me tutta quella scenata con un 11 di raggirare, 8 in carisma, cioè. Perché era così felice di avere un nuovo cliente che si è lasciata. Perché sei molto magico. E voi chi siete? Che cosa fate qui? Ma sembrano buonine queste streghe comunque al film. Vero. Io sono gentili. Una strega normale non dice voi chi siete, cosa ci fate sì, qui. Esatto, cioè, dovrebbe sono attaccarli. Siamo qui per mettere fine a questo scempio. Ecco, è arrivato quello. Pagherai per i tuoi crimini. Dove sono i bambini? Che ironia. Facevo dei pasticcini ammazzando dei bambini e ora devo e ora devo pagare per questo scempio. Ah, intrusi. Starete benissimo. No, oh, questa è più una strega. Nelle come si dice? Come ripieno delle mie torte. E vedete che tra le sue mani sì. Cominciano a saettare delle scintille. Sì. E fulmina scemo, diventa un panettone. E comincio a mangiarmi. Avvicinandole portandole nella vostra direzione. Potere illimitato! Parte una scarica di elettricità. Hai fatto bene a passarvi davanti. Tiro salvezza sulla destrezza. Voi due. C'è un momento in cosa di voi due? E lui davanti a me. È più grande di me. È una linea. È più grande. Cosa ha sparato? Fulmine. L'avevo detto! Quindi si affaccia dalla scala. Destrezza. È alla fine della scala. Alla cima di cima della scala. 21. Bravo, io 2. Ma cazzo non uso, eh? Metto le mantole di metallo, beh, tanto fa. Ah, perché tu hai svantaggio con l'armatura. No, non ho svantaggio, ma ho fatto 2 col dato. Non hai svantaggio con l'armatura? No, solo io stealth. Oh, adesso è l'armatura e quindi va pulito. Stealth. Ho capito, Beh, 13 quanto avete fatto? Sì. 21 e 2. 21 e 2, volevo dirlo. Se fai la media l'abbiamo passata. Esatto. Se fai una media l'abbiamo... Io mi sono sacrificato per 3. Baccioni alla media. Baccioni alla strega. 21 e 2 non hai detto che l'abbiate passato. Infatti quello che dicevo prima, quando dicevo da turista, nel senso che quella la fanno tutti. Sei scarso. Ma sì, se non avesse preso il... Che cazzo è di 8 tiri? Sì, sono 8 tiri. No, ma quelle sono incredibili. Che cosa stai guardando? Sto cercando per fotografi. Fai fare qualcosa ad Arci. No, se sei per fotografi, non cioè davvero non questo. Street photographer. Solo 24 danni e di mezza chi ha superato il tiro. Penso che sia più brutta la mia vita. No, no, 46 punti ferito. Sì, lo so. Quindi, come ho detto, è più o meno tutta la mia vita. Bacioni al paladino, pozione della giovinezza. Quanto ti ha tolto? 24? 24. Vai, Giulia. Io 24, provo a scalare un piano e entrare nella finestra del piano di sopra. Ok, Atletic. Esatto. Giulio, adesso tiri un 4. Sì, ci stiamo chiedendo tutti perché, però va bene. Per prenderla. Ringrazio, l'alternativa era dare fuoco al mulino con noi dentro. Pensavo solamente che se la prendesse coi polli. 22. Per cui forse è un miglioramento. Al secondo piano. Dal primo, cioè. Vabbè. Dal primo. Sono questi veri colpevoli. Se riesco a entrare dentro, bene, se no al prossimo. No, vabbè, dai, lo stesso. Se lo stai così davanti alla finestra. Che vuoi che sì, sia? Esatto, riesci ad arrivare davanti alla finestra. E sì, sì. Se vuoi puoi vedere dentro. Guardo dentro. Vedi lei che è sulla cima delle scale che ha appena incenerito i tuoi amici. Questa è bella. E sembra finita. Dalla finestra del secondo piano, guardando dentro, vedi la pietra del frantoio del mulino e che ormai bisogna azionare manualmente perché il mulino non funziona più. In questo piano io e Sal siamo, perché avevamo messo il capo, siamo fuori salvi indietro. Beh, il piano in realtà era quello. Beh, è cotta puntina. Ok. Vabbè, che tanto con la 5 punti sta al prossimo. Come? Arch. Non ho capito. Ma mi porto 26 volte. Capito cosa? Scavo detto... una buca. Scavi una buca. Cosa che hai detto prima? No, ma lui è prima. 5.0. Non scavi una buca. Non si può morire. Ah, hai ragione. Cioè, vabbè, sono tu, sono detto due volte, ok? No, non scavo una buca, ovviamente era per dire una, cioè, fare un'azione come Giulio. Cioè, hai dato inspiration a uno che ha detto che nella 5.0 non si può morire. Cioè, sono l'unico che è vero, non si può morire. La 5.0 è difficilissimo da fare. Poi sei Vez che ti salva. C'entra questo con l'inspiration. E invece sei un'altra cosa fai a farci? È morto anche con me. Questo lo farei. Però solo una volta, Dante. Anche con gatta per ora? No, con gatta due. No, basta. Due volte sono morto. Che distanza sono dalla porta? Ah, sei morto solo una volta. Okay. Quanto ci hai fatto 4 sono vicino. Comunque, che unità di misura la posso in metri. Avete detto che eravate lì vicino? 3 metri, sì. Un'azione di movimento di distanza che è... No, non sono a 7 metri e mezzo la porta. Scusami. Sì. 6 metri. Bello. Non eravate tipo a 3 metri dalla porta? Vabbè, vabbè, vado dentro la porta, cioè vado di quei 7 metri e mezzo lì che è. È arrivato sulla soglia e vedo la strega. Sì. Bene. Le faccio un po' di fiamma al momento. Merda, Arci. Non ti sforzare troppo tu. Vabbè, la faccio approssimazione tanto. Quanto è grande la stanza? Sono qua dove sono adesso? È un cerchio con diametro di 20 piedi. Quindi 12 metri. È grande, quindi. Che distanza è da me la strega? 4 quadretti. Che distanza è da me? 3-6 metri. 30. Contando la diagonale. 30 cosa? Piedi. Cosa far salvo? 9 metri. Vabbè, gli lancio un trucchetto. Grande, ho riconosciuto Varsavia. C'è l'albero. 10. No. Avevo visto la foto l'altro giorno. Il tuo produrre fiamme, hai detto. Ah sì, forse questo. Colpisci un asse del tetto. Mm-hmm. E la mano. Presente la foto lì dalla dove, okay, dove si sale, esatto. Tento scemo che... presente dove si sale e quindi vedi sulla piazza sopra la scalina. No, in realtà non vedi il colpo di Arci, si sa perché si ferma piano di sopra. Chiaro. E Race. State Race. Di nuovo? Sì. Ho messo in piazza una foto che non volevo. Vabbè, dimmi. Puoi toglierlo. Arci è sulla porta, no? Arci è sulla porta che ha lanciato all'interno il suo boltino. Vabbè. Arrivo dove è Arci. Cosa vedo dentro? La strega in cima alle scale. Sì, e poi tutte le altre cose che dicevo. Non ci arrivo alle scale, però, in questo momento. Cioè, da lì dove dovresti sono. Usare un'altra azione. Ok, allora mi nascondo dietro. Cioè, dietro la porta da fuori. Va bene. Non tiro neanche, perché tanto immagino. Volendo, puoi farlo come bonus. Puoi fare sì, però cosa immagino che. Ah no, sto lì. Ok. Cioè ti metti in copertura. Garrosh. Aspetta. Carico. Vado in ira, mi incazzo e la riempio di mazzate. Vai, sali le scale. Sì. Di gran carriera, inciampi. Non scherzo. Sposto. Quindi, come abbiamo detto l'altra volta, giusto? Che mi hai scritto? Sì. Posso fare il mio attacco, in più ho un attacco extra dato da lì, insomma, che puoi decidere come usare. Se un attacco. Allora, intanto faccio il mio attacco bellissimo e non ho cose in più a colpire con l'ira, no, solo i danni. L'ira ti dà un bonus ai danni. E la tua classe di barbaro ti dovrebbe dare altre cose addizionali che tu puoi decidere se usare o meno. Tu sei di livello 3, no? Non è tipo Reckless. Esatto. Cioè puoi avere... Ho guardato l'altra volta. Puoi tipo attaccare con vantaggio e ricevere danni con vantaggio. Tanto che ciò ci pensa. Ma non avevo guarda, scelto in realtà. Ah, perché ho tu sei comunque un barbaro. No, perché non avevo più guardato la cosa del. Tanto bello. Livello 3 hai Reckless attack. Te lo posso anche già dire. Cioè, quindi praticamente puoi decidere di attaccare con vantaggio e se lo fai dopo. Uno a vantaggio, è vero. È vero. Con vantaggio. È vero. E poi hai il Primal Pet che non so. Puff che non so. Ha preso uno personalizzato. Esatto, era quello. Non so. Vabbè, quella cosa lì. Allora sì, se posso attacco con vantaggio. Se ritiro, questo va bene, tiro un altro, dimmi tu. Tiro un altro e vedi, prendi il risultato più alto. Frizza la lane. Frizza la lane. 15. Frizza la lane. Non l'avresti, non lo diresti perché è solo una vecchietta in teoria. Merda, è un classico però in realtà. La sua pelle è molto coriacea. Pazzesco. Allora, il barbaro manchiato, te lo saresti mai aspettato. Pazzesco. Incredibile. Provo a fare l'attacco extra, dato dall'ira. Ma vantaggio anche sul secondo. Credo. Sì, su tutti gli attacchi. Su tutti gli attacchi. Credo. Ma tutti hanno vantaggio. Cioè hai finito di fare che cazzo? Cioè c'è il libro. Vabbè, ce l'ha lì davanti? Ce l'ha già lì? No, quello. Il tuo primo attacco. Sì. Allora no, sì. Dice doing so gives you advantage on melee weapon attack rolls. Allora sì. Using strength. Dai. Allora questo è critico. Grande. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Puoi anche ringraziarmi. Grazie. Quindi come funziona il critico che penso sia il tiro il doppio dei dazi. Tiro specialmente due dadi. Beh, cioè, smetti di guardare i porno. Rega, allora, molto semplicemente... Raddoppi anche il bonus. Tu hai preso un troll. No. No, sono preso un troll. Io ho preso. Mi stavo prendendo. Perché sennò non ci va la macchina molto bene. 5 più 3 più 5. Beh, allora non è... 10 più altri 15. Come cosa? Però, un criticone. Che arma stai usando? Martello da guerra. La cosa di cartella. Come verrà? Tipo quella valigetta che immagino non lo usi a due mani di 4 ore. No, uno scudo dato che immagino sia quelle da non di argento no. Cioè sì, in realtà sì, però non vedi che il danno che le fai è minore di quello che ti saresti aspettato dalla rappresentante. Quanto è che gli hai fatto? 15. Ok, c'ero anch'io quella in realtà, però no, proprio sì, c'è roba. Posso prendere lo zaino, però quindi posso prendere una macchina motorola. Mezzo, tutti? Pure? Allora, io mi faccio Leon Hands, 15 punti ferita. Uh-huh. E poi faccio Vow of Enmity. Enmity? La strega. Perfetto. Giuro vendetta contro la strega. Vendetta vera. E poi mi avvicino. Non finirò in galera. Mi avvicino, ma non posso fare altro, purtroppo. Quindi sta la strega. Cioè il channel non specifica se sia un'azione o un coso gratuito, non dice niente, quindi... Che cosa? È una bonus. Il giuramento di nemicizia è una bonus action, sì. Cioè è uso il channel Divinity, sì, però non specifica. C'è scritto nella descrizione di giuramento di nemicizia. Purtroppo è una bonus action. È una storia triste. Non voglio fantasma sport, voglio fantasma killer. Mi piace perché Arsi continua a produrre fiamme. In modo inutile. È lì che prende le torce, delle lance. Adesso diventa animale. Però sì. Prima non aveva senso. Cioè sarei diventato un orso sulla soglia. Quindi. Magari doveva fare un tiro sulla paura. Magari fare la cura. Vabbè. Si rivolge a te e ti dice. Come osi toccarla? Vedo show, come osi toccarla? Con le tue luride appendici. Toccarla anche io. Hai capito? L'approccio non gli è piaciuto. Ha detto che l'hai toccata con le tue luride appendici. Ti farò pentire di essere nato. Oh, finalmente. Sceo muore gain, sceo muore di nuovo. Bacioni al barbaro. Agita le sue mani davanti a te e cominci a vedere le visioni terrificanti che gettano il tuo cuore nel terrore più assoluto. Fai un tiro salvezza sulla saggezza. Saggezza, tipica del sulla saggezza? In realtà ho 10, quindi. 20 di dado. Pam! 15. Davvero? Sì. Purtroppo sì. Uso un inspiration, deve rifare. Svantaggio. Uso un inspiration. Svantaggio. A svantaggio scemo, svantaggio scemo. Uso un inspiration. Sei spaventato. Ah, perché era 16 al CD. Davvero? No, secondo me era peggio se non lo passavo. Ah no, scusa. Sei morto. Sei morto. Hai resistito a... No! Queste visioni terrificanti. Bravo. Tu bravo. Non puoi. Bravo. State arci. Promozione bonus divento orso. È migrato sulla parete. Come azione è migrato la schiena su una parete. Esatto. Cantando in fondo basta al minimo. C'hai un nano che si frappone tra te e lei. E anch'io. Lo sì, sposto. Non è sulla scala lei? In cima alla scala. Sono un orso, mi alzo comunque se la colpire. Puoi provare a colpire dal piano di sotto con vantaggio. Dal piano di sotto, perché? Tipo salti. Perché è quello in cui sei tu, lei è piano di sopra. Tu sei non piano può di sopra. Fare un pezzo di scala. Faccio un pezzettino di scala e se c'è un nano davanti, sono un orso, bestia grande, c'è chi se frega se c'è un nano. Hai portata? Hai portato? No. Allora come fai ad arrivarci? Non possiamo occuparci. Chi se ne frega? Chi se ne frega? È larga solo un quadretto la scala, immagino. Non posso fare una specie di prova di... Ha una cazzo di inspiration. In teoria puoi provare. Abbiamo ucciso dei cavalli di fianco. Ha detto, hai fatto bene. Non posso impedirlo al ciclo della vita. Puoi fare quel cazzo che gli fai. Puoi provare a fare una prova di forza per saltare me. E saltare addosso alla strega. Non può fare l'attacco a Sceo invece dall'altro lato. Quello sicuro. Cosa? Non può fare l'attacco a Sceo invece della strega. Il round. Tu quanto li dai? Non tu 26. Sai. Però è Nira, quindi ci metti un bel po'. Ci. Beh. Quanto hai di casa tua? Non te lo dico. Dai, catta, vuoi che non arrivi alla strega? Ma da sotto con svantaggio. Puoi arrivarci se. Prendendo svantaggio i tiri per colpire. Hai l'inspiration che può annullare questo svantaggio. Per un attacco. Sì, per un'azione. Per un attacco. No, sì, però sono molti attacco contro il mio uno. Però è un tiro. È un tiro. Vabbè, però... Per una campagna. Prova per svantaggio. Massimo il turno dopo cercherò di spostarmi. Scusa, ma perché passare. Non tiri giù il piano? Non puoi fare un incantesimo utile. Tiri i dadi e basta. Ma voglio vedere, non riesco ad arrivarci senza per svantaggio. No, c'è tipo una prova di... C'è un tappeto, poi... magari puoi tirare via il tappeto. Potrebbe provare a arrampicarsi. È vero. Puoi provare ad arrampicarsi e arrivare piano di sotto. Attacca il turno dopo. Esatto. Però senza svantaggio. Così per la strada. Però che cazzo faccio ad arrampicare? Se no adesso fa con svantaggio. Cioè, tra mi le varie cose. C'è un piano chiuso tipo così, con una scalinata. In cui ci sono sopra Sceo. Scusa, lui adesso attira la, con svantaggio. Al prossimo si arrampica e poi tira. Non ho capito se la scala no, chiocciola. No, comunque l'azione non la può attaccare. Va contro il muro. Quindi è curva. Ah, ok. È tipo sopra la torre passaggio. Di... Quindi tu volevi tipo aggrappare. Oblivion. Cioè lui si può arrampicare in questo turno e poi attaccare. Sono tipo le torri di Oblivion. Ma sì, mi sembra una delle cose meno improbabili di quelle che stai cercando di fare. Sì. Va bene. Attacco da sotto con svantaggio. Mai. Non ci sta bene, allora che ti ho scelto? Allora, primo attacco 16. Svantaggio, non vantaggio. Secondo attacco 15. No, ho fatto 9 e... Ah no, aspetta, se sta combattendo già contro di voi non c'entra un cazzo, no, qua, vero? Non c'è né più uno del vantaggio. Only if you are a thief. Rogue. Quindi 8 e 9. Rogue. 9 e 10. Rogue. Con quanto avete colpito? Io con 15 l'ho mancato. Atanas. Ma no, devo con 15 l'hai mancato. Io entro. Dalla finestra. Entrata effetto. Se la provo a buttare di sotto. Sì, ottima idea. Ma era violento male. Sì, perché dopo ci vado anch'io. No, è una bella idea in effetti. Faccio prova. Shove. Così è circondato. Cos'è? Shove, l'azione. Sì. Spingere. Ah, posso semplicemente fare l'azione. Posso di un attacco, sì. Ah, sì, faccio. Puoi pensare le nostre parole, belle italiane. Sì, esatto, usiamo le parole italiane, fatte a mano, artigianali, le nostre mamme, bazzoni inglesi. Vabbè, allora faccio spingere. Chissà. È uguale. Non cambia nulla. E uso... Buttala di sotto. E noi glielo buttiamo e lo facciamo male. Cazzo nell'anno. E tipo, entro tipo urlando. Fuasa! Tu pagherai! Vado lì dandogli un gran calcio. E becca Sheo. Sì, li tira giù, li fa rotolare su tutte e due. Vai. E niente. 23. Boh. Attenzione. Tira con vantaggio perché anche lei ha inspiration. Cosa no? Perché dovrei tirare con vantaggio? Ma giuro, se vieni ribaltato da una vecchia. Ho capito, Fabio di 23, no. Ne vado 18. 19. Eh? 19. No. 3 ha fatto 23. Io ho fatto 19. Quindi, oh! Qualcuno vola di sotto! Pagherai! Questa è sporta! Ah, ieri ho tra l'altro visto 300, quindi dove ci sta. 300. No, 300. Giusto il 2 o 1? 1. Il 2 è bello quando cammina sul mare. A me il 2 è l'unico che mi è piaciuto, quello che c'è la grigia. Vabbè, mi è piaciuto un po'. Grazie. Anche alle donne probabilmente. E cade al piano di sotto, e sbattendo contro la mia zampa, che è messa così. La botte, quella che contiene il liquido melmoso. Che diventa un rovesciandola. Rovesciandola vedete che esce un altro dredge. No! Cheat! Cheat! Era già rovesciato quel robo, me l'hai detto prima. No, non l'ho rovesciato. Sì, ho detto avete sentito il rumore? No, ho detto entro, cioè il robo rovesciato e tu fai sì. È vero, anche io sentito fare sì. Un po' ricordo anch'io come se fosse prima. No, ho detto entro, vedo il calderone rovesciato e tu hai detto sì. Mi ricordo solo il calderone. Questo è il barile. Sono due cose diverse. Effettivamente sì, è un barile. C'è il barile e c'è il forno. Sei falso. No, questo è vero. Che c'era un barile. Sì, però non c'erano le due rovesciate. Calderone. Io non ho questo ricordo. Vabbè, anche se avessi avuto c'è il barile. Comunque adesso è rovesciato. Falso. Vabbè. Sono attaccati questi cavilli legali. Cheating. Facciamo vedere che col power player c'è anche il power master. Oh, quello lo è per definizione. Ma chi tocca quindi adesso? Beh, sì, ma Atanas ha il dredge che esce e trova. Ah, pure. Esatto. Tirerà l'iniziativa. Quello di prima. Quello di prima. No, hai ragione, tira. Quello di prima no. Cioè, quello di prima hanno, no. Hanno l'eredità, cioè, esatto. L'eredità la sua iniziativa quello dopo. Cioè, almeno fai finta, poi dagli 20 lo stesso, come si fa normalmente, però vai race. Allora io ributto gli occhi nella casetta. È chiaro che poi gli dai la stessa di prima, però almeno fai finta. Vedi una vecchia per terra che... Vantaggio. Vado sulla vecchia. Vantaggioso. Vantaggione, ragazzi. Che merda. Critico. No. Merda, fai critico con svantaggio. Critico con svantaggio. E tanto. Precisamente tanto. 23. Colpito. Con quanto l'hai colpita sola col primo? 19. Quindi 16, 17, 18 però sono 10. Che merda, 19 danni. Bacioni alla vecchia. Le tue armi non immagino non siano argentate. No, mai nella vita. Oh, forse ho fatto bene a trasformarmi nell'orso bruno argentato. Ma no, mi sa che tu quando è che cominci ad avere gli attacchi magici? Bacioni. Non troppo. Ma tipo al 6. Lei si contorce dal dolore, maledendovi in una lingua che non capite. Che lingua è? Primordiale. No, io capisco. Capisco che ti sta male. Ha detto qualcosa a tua madre. Ma. Tu hai capito? Tipo, mamma. Non ti permettere. Va bene. Vai. Mai più. Rispondendole in primordiale a questo mai punto. Più. Mai più. Di nominare mia madre. Posso fare. Cioè, posso correrle addosso mai in più. Qualche modo. Buttati giù e. Correndo anche sulla parete, volendo. In tutti i modi che vuoi. Correndo sulla parete. Che fa figo. Un nano di merda. Cosa l'inspiration per farlo? Sono un montone, lo posso fare gratis. E quindi. Ma attacco in counter lo posso usare. Le pareti lisce di una casa. Faccio di nuovo attacco in counter. Cioè, perché devi crearsi uno spazio temporale due anni ogni volta che devi fare un turno? Dai, 24. Colpito. 24 si colpisce, buono. 13 danni. E poi decido di fare anche l'attacco Boom, critico. Questo è un altro criticozzo. Devo ammazzare più spesso allora. Vai, Sceo. Più spesso di così. Più 10. 20. Morta. Vanno bene 30. Perché ho più 2, più 3, più 2, più 5. Morganta? Mo non canta? A proposito. No, non è diventato d'argento nel frattempo. Vai, provo ad attaccarla. Mm-hmm. Vantaggio? Sì, il vantaggio del Vau. E anche del. Anche perché è a terra, è... spiaccicata. Però non si accumula. Tutte le case sono inutili. Bisogna che comunque non la prendo. Tutte le case sono inutili. 15. Mi ha curato prima che, la, che il, l'altra volta mi ha curato che il conto era finito. La volta prima mi ha dato il bonus il dico non ha detto salto. No, beh, non è abbastanza. No, io non so. Una volta ha fatto voto. Io l'ho usato e una l'ha volta. Buttata a te. Sì, perché abbiamo pregato. Sì, vabbè, ma io quello l'ho fatto, ma sapevo che non l'avrei mai colpito. Poi ti tocca? A lei. Oh, io non gioco mai. Vabbè, tu magari. No, la mia utilità è stata semplicemente prendere la scarica. No, certo. Tu magari non vedi la, l'ordine di sparo. Sì. Siamo qua. Adesso sta la strega. E forse ha il mostriciato. No, capito? Dopo i tagli ho usato io che l'ho buttata di sotto. Sei un cazzo di orso. Capito? Non è che, non è che gli orsi saltano in round. Come no? Allora, lei si contorce dal dolore delle saccagnate che sta ricevendo. Martellate. E vi dice e urla verso i piani superiori: intrusi, ci sono degli intrusi. Oh, e detto questo, cazzo. No, a parte che mette... chiudo parentesi, se c'è qualcuno nei piani superiori, magari ci ha comunque sentiti. Forse non so, c'è un orso che urla, uno che tira martellate. Io correndo non sto sui là, muri. Stai cantando. In hai ragione. Ci basta. Oh, ok, briciolo. Hai ragione. Bubu, dammi. Ok. Che ovviamente poche briciole di droghe. Cosa fa? Scusami, dai. Incanta delle parole magiche e sparisce in un puff di una nuvola malodorante. Non è malodorante, ma mi piace pensare che lo sia. Era, cioè, a vista così aveva incassato parecchio. Cioè, stava male. No, stava ancora bene, però gli stava dando abbastanza fastidio. Perché okay, riposo lungo? Nel momento in cui lei sparisce, sentite dei passi provenire dal piano superiore a quello superiore, quindi il terzo piano. Nel momento di dar fuoco a mulino. Spuntano da sopra le teste di altre due megere vecchiacce. E che vi vedono, sgranano gli occhi. Chi è rimasto sopra? Tu, Athanas. E basta. E vedi che ti indicano con le loro dita lunghe e nodose. Sparando il fulmine in faccia. No, partono dei. Eldritch Blast. Hanno detto proprio così. Eldritch Magic Missiles. Ah, minchia. Quanti? Ora siamo frizzati. Uno da ognuno. Era bello il cattagorino. Di nuovo voi. Allora arriva la prima raffica di missili magici. Io regalo poco, devo andare. Sì, anch'io. Che ora? Ah, 10 danni. Gli stessi hanno fatto una cappella. E la seconda raffica. Altri 10 danni. Ma sono da Firenze. Cazzo, regà. Ci siamo messi. Quanto ti ha fatto? Ha fatto 20 danni. Grande, io sono morto. Dai, 23, saresti in forma. Feriti. Posso salire adesso? Cioè, è impossibile morire nella quinta rega, state tranquilli. Le streghe sono di da Giulia. Sono puntate dal terzo. Sbaglio, la strega sono tipo 4-5. Tutti i dati. Beh, ci arrivo però in teoria, no? Attenzione, ma non fa la cagata. Ero tipo a metà strada di autostrada. Cioè, gioco adesso sei ancora al piano terra, giusto? Sì, però in modo 12 metri. Arrivi senza chi arrivi al primo piano e poi con un'altra azione puoi arrivare dove sono loro. Ti servono due azioni per arrivare fino a dove vuoi arrivare, dove sono loro? Se sono in cima alla scala. Io con 12 metri di cammino non arrivo a loro. Alla seconda parte. Ah, non ho fatto caso che il materiale non ce l'avevo. Sì, per fai 6 più 6. Ma dopo se vuoi posso andare a vedere. No, cazzo. Ci arrivo con 6 più 6. No, no, così. Vabbè, te la ricordo di vedere la sezione. No, perché l'orso si muove di 12. Un foglio di carta a studiare le cose. 12 metri. Catta allora. Sei così veloce? Sì. Vabbè, sì, più veloce. Quindi ci arrivo. Quanti piedi sono? Sono 12 metri, ragazzi. E più un po' di più di sono 36 piedi, no? Allora, in italiano. Beh, se ci arrivavo con 6 più 6 del nano, che si muove in 7 e mezzo tra l'altro. Più di 36. Sono 60. 30. No, scusa, 9 metri sono 30 piedi. 40? 50. Boh. 40 piedi. No, sarà più 45. Ci arrivo allora. Sì, ci devo fare sempre tutto io. Allora l'attacco, quella che mettendo un po' davanti a giù. Sì, l'ha detto lui. Ho vantaggio, no? In virtù di? Catta, queste domande sempre che non lo so. Muove di 40 piedi e può scalare Arci di 30 piedi. L'orso? Sì, infatti. Perché devo scalare di 9 metri? Quindi non usi un'azione per scalare, sali su di 30, di 9 metri a dritto. E potevi attaccare subito. Potevi attaccarlo diretto. Vantaggio. Senza neanche tirare la prova? No. No. Perché? Perché è scalare come velocità. Vabbè, scalare tanto automatico, non è che. Beh, attacco. Un orso. Oh! Brutto! Oh! Vediamo anche l'artiglio. Oh! 20. No, 16 più 5 però. Beh, hai colpito. Ora faccio. 8 più 4, 12. Sì, mi ricordo un vecchio druido palestrato che citava qualcuno. 12. Io. Più. Ma la scheda sua l'ho fatta io. 23 danni. Ah, okay. No, è uguale all'altro druido che non a caso. Okay. La qui scheda fa. No, beh, gli attacchi non siano magici, per favore. Che non mi ricordo quando. No, no, no, no, non sono. A livello 6 lo prendo. Quindi sono perforanti e taglienti. Le tue artigliate fanno meno effetto di quello che dovrebbero. Ma vabbè. Ah, vuoi che ti distingo i due cosi? No, comunque sono due attacchi. È uguale. Sommando gli ordini. La resistenza magici e lì funziona che si mezzano e buono. Perché lo ci mettiamo tanto. Sì, sarà lunghissima in realtà. No, muoviamo noi. Vabbè, ci sta, figo, rifacciamo i PG. Basta. Ho finito le idee tra un po'. Giochiamo a Alba di Cthulhu. Cazzo, devo dire. Catta, trovato il modo di finire subito la campagna. Vado di sotto, mi butto giù. Butto. E scappo. Cioè, ti butti veramente? Cioè, sono sulle scale. Ah, ok, finisci di scendere. Scendi. Salti di sotto. Salto di sotto. E c'è roba infiammabile. In realtà vedete che tra terra la sporcizia, la pagliuzza, eccetera, aveva già cominciato a prendere un po' di fuoco dal fulmine che aveva tirato prima. Ok, allora. Ah, c'è ancora però il demone, giusto? Cattivo Giulio. Cioè, stai dando fuoco a un muglio con noi dentro? No, capiamo, ragazzi. Cioè, non è. In realtà se riesce a dargli fuoco, noi si spariscono e si teletrasportano. Ho capito. rischi di fare più danni a noi che a loro. Sì, poi ci sono dei bambini. Allora, farà sicuramente il fuoco sta già prendendo senza che io abbia fatto nulla. Giulio, cosa cazzo fai? No. Non ho fatto niente, sto attaccando il demone. Ma non ci pesa, esatto. Sta dando fuoco il demone a un mulino con noi dentro e delle streghe che possono teletrasportarsi. Sto rovesciando benzina. Mi sembrava un'ottima idea. Mentre noi combattiamo ci sta andando addosso la benzina. Tieni, prendi questo, salla. Che buono di ora. Se con Wind hanno un bonus action o un'azione. Oppure la seconda, quella che sta nel fango. No, scusa, l'altro. Che Giulia ha lanciato le scatole di indicatore addosso. Secondo me, credo che sia... credo che sia... Era la prima. La prima, la seconda. Era la prima. In cui Giulio ti ha tirato le sue scatole. Vabbè, intanto usano un attacco. Usa. Quanto è? 1 e 4. Fumble! 4 quant'è? 4 e 9. Oddio. Ok, manchi il povero Dreth che ti guarda e dice: perché l'hai fatto? Parliamone. Stai facendo. Parlando proprio di Dreth. Aspetta, uso Second Wind. Bonus. Cosa? Okay. Un'azione bonus Second Wind per usare facendo il secondo attacco. Second Wind, sì. È un'azione bonus. Sì, è bonus. Second Wind mi permette di fare l'azione. Per sé. Sì. Cioè, hai un'altra azione e con quella fai... No, faccio un altro attacco. Fai un altro attacco, ok. Ma Second Wind ti curi. Second Wind ti curi, è il... Vabbè, è l'altro action shoot. Niente. Ok. E stavo dicendo, il caro Coso ti vede, è molto scoraggiato e quindi molla una scorreggia. Visibile da qui. È diventato cinebaettone tutto il tratto. Ma ci sta. E quindi... Facciamoli scorreggiare ora, tutto d'un tratto. Così del botto. Così del botto. Genio! Eccolo che funzioni veramente così. In un raggio di 10 piedi intorno a lui si propaga questo gas verde. Nefitico. Veramente non c'è mai liberato il straccione. Si chiama Fetid Cloud, nuvola fetida. E chi inizia il suo turno nella nuvola deve fare un tiro salvezza sulla costituzione CD11. Chi del cazzo? Può essere avvelenato fino all'inizio del prossimo turno. Io lo faccio quando inizio io il prossimo, faccio adesso. Quando inizi il tuo turno in mezzo alla nuvola. Ma quanto è grande la nuvola? E mentre sei avvelenato in questo, quindi il centro del mulino, quando sei avvelenato in questo modo, il bersaglio non può prendere né azioni bonus e non può avere reazioni. Cioè, è un po' manipolata. Sì. È immobilizzato. Bisogna fallire un tiro sulla costituzione di È 50% quasi per alcuni di noi. Io più 5. Hai più 5 di tutti. Anch'io, però. Una cassa di barba. Per alcuni di noi. Però finora ho fatto 2, 3, 4. No, 1, 4, 3. Concedimi almeno la costituzione. Vai, Race. Salgo su. Ma Shot, prima devi fare un tiro. Perché? No. Era. Ah, sì, sono sulla strega io, però. Ero in mezzo alla nuvola. Dove era la strega? Tumore. Quanta in costituzione? Più 1. Dai, 12. Salgo su. Ci arriva le streghe. Focussiamo la stessa sala che tira giù fast. Lo dico subito. Non so, non molto fast. Hai visto l'altra? Non abbiamo possibilità. L'altra le avremmo fatto 50 danni. Ok, dimezzati. 3, però 4, 5. Lei aveva già steso quasi due di noi. Io ho il dash anche. Quale? Dash Shax. Sono due adesso. Allora sì. Sono due però. Attacco. Più l'altra che forse torna. Vabbè, non possiamo mettere tutti quanti in cerchio e piangere. Allora, col primo ho fatto una merda. Però sì. Col secondo attacco faccio di più. Quello possiamo cominciare a scappare. Ma in realtà se uccidessimo il tipo scoveva la nuvola. Se uccidessi. Vabbè, danni. Può essere. Ma quello è il problema minore in questo momento, vabbè. È il problema. Beh, però se intanto gli sala sono sulle streghe. Ah no, non aggiungi la destrezza. 6 danni. Se le streghe conviene che venga anch'io per ora che sono quasi full. Tu però non puoi venire perché siamo su una scala, lui può scalare. E io posso correre sulle pareti. Allora figo. Intanto Vezzi e Giulia ammazzano quella merda che Cioè prima arrivate meglio. Sai cosa posso fare? Io posso nella nuvola. Sono nella nuvola, ma passo easy. Uno. Ma perché l'ha detto? Perché? Dopo tutto questo tempo. Perché? Non imparo mai. Sì, ti do l'inspiration, basta che lo ritiri. No, no, no, sì, no. Sì, abbiamo. No, ma se lo merita. No, no, me lo merito. Vabbè, posso comunque fare intanto la mia azione di movimento. No, no, te la dai io l'inspiration. Te ritira. Veramente? Ma sì, era un po'. Moriamo. Allora, 17. Ah, se no sarei sceso nella tua. Allora, avrei dato. Sarei tuffato nella nuvola io. E ti avrei picchiato. Vabbè, allora, se posso, carico, nel senso. Corro sulla parete, vado dietro una delle streghe, faccio il mio attacco in ira e dopo provo a spingerla non giù. Non ci arrivi mai nella vita. Cosa spingi giù che ce l'abbiamo addosso io e Salla? Stiamo e una la faccio cadere e l'altra ci siete addosso voi. Ma così ci dividiamo in due gruppi. Focus sarà intanto la nostra. Ma non ci arrivi mai nella vita a arrivarci a attaccare. Tu sei un anno, fai 25 piedi attorno. Che sono 4 quadretti. Beh no, dalla nostra ci arrivi, scusami. Lui era già sulla seconda rampa. C'era già sulle scale lui, Lui era per terra, non sono cinque. Io ho picchiato la striscia che era caduta, quindi ero sceso. Ah, ok. No, non ci arriva mai a vita. Allora piuttosto ammazzi ste tizi. Se non ci arrivo, rimango. Il movimento arrivi alla base della scala di sopra. Quindi non ci arrivo in sostanza. Allora rimango a focussare il demone. Ma scusarci, era sulla stessa strega che ho colpito. Sì. Sì. Cazzi, allora aspetta. Te l'ho anche detto, Salla, io di focussare la stessa. Ma non credevo fossi già arrivato. Sono altri 10 danni. Va bene. Allora, faccio di nuovo attacco in campo contro il demone. 19. Capito. È che pensavo danni. Dovessi ancora salire. No, no. Messo male. Gli faccio l'attacco extra. Sempre in cauto. 22. Capito. 18. Vero. Danni. Esplode. Oh, esplodisce anche la merda. La nuvoletta. È una bella domanda. Chissà. Purtroppo. So che è controproducente, però secondo me si diraderà piano piano. Dipende. Mi stavo incartando. Dipende se è su concentrazione. È che non è un incantesimo, è una no, scoreggiata, rimane lì. Secondo me rimane lì tipo 3 turni, rimane lì. Dura un minuto finché un forte vento non la disperde. O finché un forte vento non la disperde. Mi metto a soffiare. Ti dico solo che devi ritirare. Lo so. Mi metto a soffiare. Sta bello? Su serio, posso come le bonus si... cominciare a soffiare? La strada. Ok, vediamo se si può passare. Quando la serve. Facile, non così facile. Tra l'altro a me bastava da 6 in su col dado. Io pensavo di darvi il bless. Cos'è? Un più di 4? Un più di 4 ogni intero. Giulio non tra di voi. Giulio cosa? Ma hai detto Siri, scusa? Allora, Giulio, Arci e... Scemo muore. Calmo. O Salla o Sceo. Salla o Sceo, lo so. Che cosa? Salla. Sceo ci dovrebbe arrivare prima. Cioè, no, se vuoi dare un T4, no? Sono già in combattimento. Pensa a chi ne ha più. Io ho già vantaggio a tirare. Io no. Vai su Salla allora. Salla, capito? Arci e io avendo già vantaggio, Giulio. Cioè, ma già ho un D4 a turno. No, tiro. Ne hai uno solo sprecato, basta, finito. Sì. Allora, tutte le volte che fate un tiro... un attacco oppure un tiro salvezza potete aggiungere un D4 al numero. Aspetta, quindi per ogni attacco se raggiungi anche al tiro salvezza interessava anche al tiro no, sto scherzando, è meglio io ho tirato, lo aggiungo buono per il pane. Io ho già più 5, io ho più 5 costruzioni e vantaggio a tirare. Va bene, vai. Ma ci devi toccare, mi sposto dalla nuvola però mi avvicino, so che non dovrò dire questa cosa, ma no, range, ok, 30 piedi, quindi mi avvicino. Chiesto a Giulio cosa ne pensa di questa mossa, che l'altra volta ha apprezzato. Magari uno tocca a me. Sono tutti e tre sopra, no? Io mi avvicino. Sono inculato. Ma tu ridi troppo, sta qua. Muoio diretto. Ok, ho trovato questo. Muoio subito. Dai, stanno scendendo. Muoio subito. Secondo me moriamo tutti. No, è furtivo te. Ragazzi, tranquilli, non è così brutto. Cioè. Basta, devo dimostrarti che sto PGOP. Io non l'ho fatto in tempo. Ma tu sei full, scusa Salla, no? No, ho perso 4. Quella davanti a te ti dà un inghiato. A me però? A lui. Asceo. No, sono giù, ho ucciso il demone. Non ho un taunt, scusami. Non credo. 16 ti colpisce? Sì. Sono 16 danni. Che? Grazie. Ciao, sono morto. Forse devo fare lo scemo. Ma è che ovviamente ora che non c'è. Ora che ho il vantaggio ai tiri salvezza, Katta ha deciso di attaccarmi. Invece che fare incantesimi. Quella dietro tira dei dardi incantati contro l'orso. E fanno più più più. E fanno. C'è un po' fatica. 11 danni. Vabbè, dai. E prego. Cambia 20 a lui 11. Che sarebbe lì? Attacco. Quella che stiamo focussando di Salla. Che se siamo uno spagnolo, io non ho più uno. Non avere il chierico è un po' un problema. 4. Sì. Vabbè, non è che normalmente ce l'abbiamo. È vero. Beh, no, sai che mi ha fatto? No, non l'hai curato. Mi ha curato lui. Sì, non l'ho mai curato. Mi ha curato una volta Rovezio e una volta Arci. Allora, questo. La cura l'ho già fatta. Bilico. Uso il D4. Non ci arrivo. 9 più 5. 14. Manca. Secondo. 19. Colpito. Troia, mi cascia. Burda. Posso aggiungere anche i danni di 4? No. Solo colpire. Sweet. Che bello. Dimmi un numero. 6. E dividilo per 2. 6 danni. Poi come azione bonus uso. Comunque è un action surge o anche una azione bonus? Sì, no, hai tutto il turno. Sì, sì, no, sì, no, non è un'azione bonus. Posso prendere un'azione addizionale? Sì, sì, sì, con e una possibilità e una azione bonus, hai, quella che hai di solito. No, in più, cioè nell'azione no, in più. No, no, hai l'azione no, bonus, non hai il movimento. No, sono abbastanza sicuro che tu abbia on your turn you can take one additional action on top of your regular action and a possible bonus. Esatto, vuol dire che nel tuo turno puoi fare l'azione e l'azione bonus e quindi ma normalmente prendere... nel tuo turno puoi fare la tua azione e l'azione bonus. No, no, puoi e non avrebbe senso allora. L'azione bonus senza il movimento. Cioè puoi usare l'azione come movimento. Cioè tu puoi prendere un'azione in più e l'azione bonus dell'azione. Ma non puoi, non hai il movimento che hai normalmente in un'azione in un turno completo. Dice il che movimento hai, lo puoi prendere. Dice che hai un'azione in più e una possibile bonus action. Cioè, hai un'azione in più della tua normale azione e della tua normale azione bonus. Cioè, no, non in più della tua normale azione bonus. No, dice esattamente. Puoi andare a vedere. No, magari l'errata. Ah, nell'errata sì, vabbè, fanculo. Scusa, non ho detto l'errata. Non volevo dire l'errata. Puoi andare a vedere il Sage Advice che è il. Lo sviluppatore del gioco che risponde alle domande gli aveva chiesto 10.000 volte. Ho capito, però ha scritto male. Che cazzo ha scritto di merda? Su quello che infatti gli hanno chiesto molte volte perché è fraintendibile. No, no, no, non è fraintendibile, è proprio scritto and a possible bonus action. Okay, vuol dire quella possibile, nel senso che è quella che tu avresti normalmente. Tradotto letteralmente, no, vuol dire una bonus action in più? No, traducendo letteralmente dici puoi prendere un'azione addizionale e una possibile bonus action. Quindi, tradotto letteralmente, sembra che tu possa prendere l'azione e la bonus action. Poi, se mi sei sbagliato, cioè, doveva scrivere oltre alla solita bonus action. Secondo te, Kat, invece vuol dire? Oltre alla solita bonus. Che hai un'azione in più e invece è buona, esatto, è buona. Come abbiamo sempre fatto, tra l'altro. Ma cos'è questo punto di velocità? La prima volta che giocavamo, secondo me, facciamo tutte e due. Mi ricordo. Sì, all'inizio sbagliavamo, perché mi ricordo che qualcuno aveva un guerriero che faceva un sacco di attacchi. Sì, sì, dall'inizio facciamo sicuramente. Beh, no, aspetta, un sacco di attacchi. Comunque l'azione bonus non implica attacchi. Beh, di solito sì. Vabbè. Quando fai quel guerriero che combatte con due armi, di solito lo usi per quelli. Ah, sì, è vero. Intanto che lui ci faceva tanti attacchi, però questo dettaglio sinceramente non lo so. Si prepara adesso. Io attacco, non mi devo preparare. Tanto secondo poi. Ah, non sei ancora giù tu. È a 3. 16, 21. Primo attacco. Okay. Il secondo attacco. Che porca. Niente. Sei già di 4. Sì. Va bene allora. 10, 12, 15. Ok, incassa ed è molto incacchiata. Garrosh. Come movimento dimmi tu dove posso arrivare, come posso... Puoi fare il numerino di correre lungo le pareti per arrivare dove sono loro. Tra l'altro è veramente un cane, perché se lui non avesse scritto niente, se lui avesse scritto tipo "You can take one additional action on top of your regular action", sì, stop. Non sarebbe stato il problema. Tu mi hai scritto l'altra volta, ed è la sua lingua madre, tra l'altro. Quando hai scritto l'altra volta, hai detto che il totem del montone mi permette di usare l'azione bonus per fare uno scatto in linea retta in direzione o magari linea. Salla l'ha scritta così quando si è reso conto che era una cacata in termini di gioco, sa, detto che si sbagliasse. Sì, quello è per dire che mantiene la bonus in questo mi è venuto in mente adesso anche a me, però in questo caso non so la linea retta, essendo una superficie curva tu di fatto, però è come se andassi dritto, ma lui all'inizio voleva fare come dicevo, quindi riesco a raggiungerlo grazie a questa cosa. No, no, ma voleva dire come dicevo, voleva essere sicuro che loro, quindi niente, un movimento attacco solito, allora di nuovo attacco in campo, quella che stanno dire già che in tipo di bonus action, qualcosa del genere. Sì, aia, 12 mancato, provo l'attacco extra, sì, 22 colpito, 10, 17. Oppala. Tu hai tirato Salla, sei già fatto? Sì, ho fatto non ho tirato la nuvoletta, no, non è quello, poi partivo da lì, ho ucciso io il demone, hai ucciso, vai, tira la nuvoletta. Bravo scemo. Pazzesco, 8. Stay there. Niente, torna indietro. Beh, no, che se ne torna indietro. Tu puoi comunque. Cioè, quei danni. Io faccio il mio movimento. Ah, no, sì, il movimento lo puoi fare. Movimento tu lo puoi fare. Non so se poi la linea retta me la punti lo stesso, anche se non attacco. Do aspiration. No, poi attacco il turno dopo. Vai scemo. No, poi se non moriamo. Arrivi il turno dopo. E se è uguale, intanto non lo ucciderei. Vai, Vastran. Vastran, non lo ucciderei. No, niente, vado lì e provo a attaccare una delle. Ward. Io la chiamo Ward. Una delle streghe. È quella che allora. Siamo la stessa, perché magari morendo una, l'altra va un po' giù di testa. C'è un problema: c'hai un orso e un hipster davanti alla scala, cioè davanti a loro. Attaccare, secondo me, se nessuno ti attacca, cioè non riesco a passare. Se non subisco danni, non tento attacchi. Quindi è finita. Finisce. È finita la mia ira. Puoi ricominciare. Scusami, lui riusciva ad andare ad attaccare, io no? Aveva un movimento bonus dato dalla sua ira. Per cui io mi ero già mosso prima, no, oltre a quello in modo un ulteriore scatto in realtà come dicevamo prima con Arci, prima che scoprisse di avere una velocità di scalare, basta che ti arrampichi sopra il bordo del piano superiore, è un'azione ed è un'azione, cioè. Ma scusami, come è possibile che io non riesco a passare? C'è un orso davanti. Ma di solito non c'è la cosa che fa passare, compagno. Io posso passare un quadretto, sì, di una però oltre a non c'è il nemico. Cioè, o stai sul mio stesso quadretto e attacchi, aspetta, che non puoi so farlo. No. Però quindi, cioè, il discorso è che è così. Cioè, tu puoi. Cioè, sono io con la strega davanti. Puoi oltrepassare lui, puoi oltrepassare. Ma poi c'è il nemico. Però, vabbè, ma io dopo il nemico l'attacco. Sì, ma, ma non sono c'è io un quadretto, fratello. Cioè, sono io il nemico. Se tu mi oltrepassi, sei nel mio stesso quadretto. E puoi condividere il quadretto, cosa che non si può fare. A quanto dicono. E se io provo a passarla oltre cosa succede? Puoi farlo solo se secondo me sei due tagli, c'è la strega. Passare oltre la strega, dice. Cioè è possibile. Non forse credo una prova. Possa passare acrobazia forse esiste. Per passare attraverso un nemico, una lo puoi spingere esiste. Via, però c'è sempre il problema che per arrivarci tu c'hai il quadretto davanti che è bloccato da non uno ma due tuoi alleati, tra l'altro. Beh, attraversare l'alleato penso però che si possa fare. Il problema è che subito dopo c'è il nemico. Se lui vuole oltrepassare tutti, dovrà fare una prova per oltrepassare. Non si può oltrepassare un quadretto nemico. Un quadretto occupato dal nemico. Sì, però non può fare azioni per provare a oltrepassare. Perché se buttassimo le streghe nella pozza di merda di lei, non credo che faccia male. No, c'è un altro demone. E che appunto tu ti dovresti fermare. Potrei incendiare l'ultimo piano, il primo piano, e buttare le streghe dove c'è il fuoco. Quali parti di teletrasporto? Cioè, semplicemente non posso. Mentre cadono si teletrasportano. Sì, vabbè. Ok, perché non c'è abbastanza spazio lì davanti. E quindi l'unica. Sì, ma Vez, non ti preoccupare, perché io il prossimo turno vado giù, poi passarmi attraverso. Che non posso neanche curarti, credo. contatto. No, quello... Beh, tecnicamente può fare una prova di forza per spostare. Però lui ci arrivi tranquillamente. Solo che la cura è abbastanza inutile. Sei tu prima o l'osso? Tecnicamente può fare una prova di forza per spostare lui. E poi? Vabbè. Poi ha fatto la sua comunque un'azione. Però intanto lui non muore. Vabbè, però tu. Lui è 21. Era per mettersi davanti e incassare lui anziché lui. No. E tu sicuramente cadi. Se ti colpiscono, lui no. Ah, dove è una prova grossa? No. Cadi con stile perché sei un attore. Però cadi. Faccio l'altra smart, poi attaccarla. Ma scusa, tu Vez non hai l'incantesimo che hanno tutti i paladini della vendetta, che è quello che forza l'altro a attaccare te? Che è tipo duello, cosa? Io ho Hunter Smart con pelle di due. Bravo. Però no, quello possono avercelo, ma io non l'ho scelto. vabbè, scusami. Sarebbe stato utile. No, però posso fare una roba che sarebbe figa se ci fosse l'altra strega, cazzo, che farei la cosa equivalente a loro, a loro tre, solo che la posso fare solo a queste due. Cioè Bane. Aspetta, arrivo. Bane praticamente gli toglie il D4 quando fanno un attacco o un tiro salvezza. Però sì, però non è così utile in realtà. Beh, insomma, è più difficile che ci colpiscano. È più difficile, se no che lo posso fare fino a tre creature e loro sono due. E ne vedo due. Vabbè, intanto lo fai loro due. Beh, comunque è più difficile che ci colpiscano. Per finire. E dove? No, ma scusa, ma l'alternativa è che io gli faccio l'Hunter Smart che lo posso spostare se muore. E ma l'Hunter Smart lo puoi fare anche dopo come bonus action. Non ha senso farlo adesso. No, è un incantesimo. No, sì, ma è una azione bonus. Se gioco il paladino uguale al tuo nell'altra campagna. Anche se è un incantesimo, è una bonus action. È un incantesimo che usa tempo di lancio bonus action. Quindi dico bene farlo nel caso stai attaccando. Dai, non è mai come, cioè, quello che hai fatto. Come praticamente arma spirituale. Per me è utile quello che hai fatto. Devono fare il tiro salvezza sul carisma, però che mi sa che passeranno agile. Vediamo. Lo fai? Facciamo, sicuro? Poi provo un po' a avvicinarmi. Non lo passi o no? È stato bellissimo ora fa. Potrei fare questo, però purtroppo funziona su tre creature e loro sono due. Come? C'era anche la terza. Quindi, vabbè, però saremmo morti più volentieri. Spreco, quella che fallisce, quindi. Come fai a dire che fallisce meno? Perché ha fatto un tiro molto basso. Ma come fai a sapere? Ha fatto 20? Una sì, e una ha fatto 5, quindi suppongo. Quella ha fatto 20? Sì. Ah, vabbè. Però l'altra ha fallito. Cosa lo deve applicare? Niente, quando fa, se fa un attacco tira un D4 e lo sottrae. Okay. Stessa cosa se fa un tiro salvezza. Ok. Bene, dopo Vez. Quindi ci serve bombardarla di robe di risipenza. Che ti avvicini. Ma mi avvicino, ma tanto sono già vicino io. Sì, non è quello. Cioè, non è il problema. Okay. Tocca dopo Vez. Allora. Prego. Tanto io vado giù. Allora, quindi tu sei lì davanti. Cosa devo fare? La curare Salla. Però lo curavo il tuo. Sallino, carne tenera. Vedi, poco non vale la pena perché praticamente un turno loro è la sua vita, dice, più o meno. Vieni qui, bel pampino. È vero. Magari no. No, Missa. Provare a fargli un attacco su di loro. Missa? Missa. Grande! Missa per il D4, missa perché è stronza. No, questa è quella che ha superato il tiro. Ottimo, ottimo. L'altra fa dardo incantato e ti bene. Ci starebbe però. L'altra stava bersagliando l'orso e quindi continuerà a lanciargli il dardo incantato. È un pista. Soprattutto se mi manca tre capi. Dozer non lo prenderò mai abbastanza. I soliti tre missilini. 9 danni, fare un attacco. 33-9? No, ti ho tolto anche di 11 prima. Mi sono già curato di 10. Certo, io come azione bonus posso usare il mio slot incantesimo e usare il D8 per curarmi. No, ok, però dillo. Così. L'ho detto, rega, è il mio turno, 20 anni fa, però l'ho detto. L'ho sentito anch'io. Pac. Ok, scusa. 33-9? No, sembrava una delle tue cose inventate. Rega, normale, io faccio questa cosa, sembrava una classica cosa da altri. Rega, dai. Attacco la Troia. Vai. Ho vantaggio. Scusate, ho avuto un bias su Arce, però un bias su Arce. Dai, che merda. Ok. Quanto è? 11. Vabbè, direi che... 17. Colpite. Avete capito che serve 17 per colpire. Sì. 11 danni. Beh, 11. 17 vuol dire che abbiamo praticamente... Cioè io ho più 5, più 6 minimo, più 9. Beh, anche più 4, dai. Infatti ci abbiamo sfigliati. Vai, Atanas. Da dove sei tu? Io sono più 5 io sotto, però. Quindi cioè, devo fare il pro salvezza realtà, per la quasi... Nella nebbia. O meno di 50. Cioè. 17. Col passato. Mi curo di... Però... 4. Non l'avevi già fatto? No. Ah, non l'avevi fatto prima. Ah, no, hai fatto... Esco. Le scalo. Okay. Prendo dopo il mio turno faccio una prova di Athletics. Va bene. Inizio a scalare e vuoi ritornare nella finestra dove sei andato prima? No, quella sopra. Quella sopra. Perché le streghe sono dove sopra. Dove sei andato giù? Sto scalando da fuori per arrivare ad attaccare le streghe. Lo fai dall'esterno in modo che non debba fare la scala. Per non trovarsi impelagato. Io ti ho fatto il coso perché eri lì, ma non eri lì? No. No, prima sì, poi tu sei salito, io sono rimasto giù. Ah, ok. Salla. Dai. Vai, Salla, shot. Meniamo a ste streghe, tanto non faccio danni. 20. Si conta il D4 se fa uno col dado. Sì. Come contarlo, vai. Beh, ha fatto uno anche col D4. E più uno, Salla. Dai, no, doppio uno di nuovo! Sì! No, veramente, Salla, sei serio? Giustamente ha fatto due doppio 20. Con lo svantaggio. L'altra volta ha fatto 20 con svantaggio. Disingaggio e me ne vado. Meglio. Disingaggio con la coda. Sì, guarda. Vabbè, ci provo piuttosto io. Basta che guardare questo scempio. Avrei usato l'inspiration, ma l'ho usata per far avvelenare Sceo. Hai tutto lo spazio che vuoi. Ah, tu no, io ero dietro di loro praticamente. Quindi rientri in ira. Vai. Rientro in ira e quindi finisco le ire. Fai quello che fanno i barbari. Attacco incauto. 20. Capito. 11 danni. Dove te la ficco? Poi faccio l'attacco extra. O preferite che la spinga giù? No, no, attacca così nella cartella. Sì. Attacco. Cosa c'è dentro? 17. Palestra, palestra, palestra, palestra. Cosa? Cazzo c'è qualche vedo? No, è butta a caso. Palestra. 14. Tu palestra. Danni. Non muore. Se muore si guarda cos'è un palestra. Come ti dicevo prima, non gli attacchi fanno meno effetto su di lei. No, no, butta 20. Sono delle foto. Che normalmente dovrebbe. In primordiale la manda quel paese. Vastran, Vastran. Metti a caso. O metti la cartella. Le do della carogna. C'è posto ora. Puoi attaccare. C'è posto. C'è posto. Alter Sark. Così se prima devi dire colpire, per ma non diciamo dovessi, troppo forte. Sì, esatto, capito. Dovesse capitare, dai, perché devo tirare molto forte, devo tirare 12. No, non prendo. Cos'è che gli ha fatto? Allora, se dovessi casualmente... Hai vantaggio? No, perché hai non usato quell'altro. Non è quella, con l'altro. Sì, l'hai usato con l'altro. Se quella a cui non serve il vantaggio. Se dovessi colpire? Quella che comunque quando ha tirato quel lei vantaggio. Lei quindi vede davanti a sé un bel... Faccio un altro di 6. Cosa credo di questo? Che uno splendente paladino in armatura. Un orso ciccione è incarognito. In armatura. In armatura. E dietro che scappa un hipster baffuto. Quindi direi che vi lancia un bel fulmine. In linea retta di fronte a sé. Io sono dall'altra parte. Anche me? Te sicuramente. Io sono dall'altra parte. Ma tu sei dall'altra parte. Davanti beh, a anche a me mi vede. Siete davanti. Davanti. Fate per favore un tiro a salvezza sulla destrezza. Un D4. Più il D4. Ah, è vero. Bravo. E lei tira un D4 negativo. In cosa? Dai, Vez, il vai, Vez. Sparati un 20 di farlo anche su di me. Buonissima la destrezza dell'orso. Sono 8 di 8. 18. Ma mi sa che vado giù lo stesso. Sono 8 di 8. 8 di 8. 14. Giuro. Sì, ma io mi sa che vado uguale, ha fatto 18 però. Ti ho fatto mezzo? Non lo so. Quant'è? 13. Ah scusa, io sono per forza di 3 loro, non va bene a 15, dai. 15. Non lo so. Sì. Ma come sì. Bene? Sì, sì. Tienali. Ah, in bilico devi ritirare. Sì, onesto. No, devi ragazzi, onesto, fa 8 onesto. Di 8 e ci sono. Vai. Almeno 2 8 e 2 6. Allora, vai, uso l'inspiration per provare a salvarmi. Vaffanculo! Dagli un premio. Ha fatto più di 28 danni. A chi? Quanti danni totali? Però di mezza se uno passa. Sì, sì. Sono ancora vivo. Grazie a Dio, anch'io sono vivo, sì, se no sarei morto. Eh sì, tutti e tre penso. Tu quanto sei? Io no! Saresti morti tutti e tre. Quanto spado davanti? Davanti. No! Sì, 40 danni. Muore il primo orso. Ok, io direi di scappare. Ah, è vero, sì. È vero. 40 danni diviso 2, 20. 40? No, come 40? Ah, 40 danni. Diviso 2, 20. Sono comunque vivo? Ma di 1. Sì, io sono vivo di 3. 3. Come? Scusa, avevi 3 di vita tu? No, sono vivo di 3, nel senso che non sono a meno 23. Ah. Quindi non sono morto. Ah. Direi che facciamo armi, bagagli. Compagni caduti. Cioè, sennò io schiattavo instant. E salutiamo morto, la compagnia. Morto, fine. Poi quando avremo il curatore piace il problema. È forte se non mi arrivo che becchi due mazzate è morto. Allora, dopo di. Ah, ma questa è la prima, adesso c'è la seconda. Fulmina anche la seconda a sto punto. Dall'altra parte. La seconda ormai rischiano di andare seriamente a fuoco il mulino. Quindi la seconda farà semplicemente i suoi tradizionali missili magici sull'orso. Di merda. No, va bene cattacino te, va benissimo. Sì, cattacino te. No. 10 danni. Allora vado. Patk. Cosa vogliamo fare? E comincia la ritirata, mi sa. Prendi salla e comincia a correre. No? Come siamo messi? Come ho messo benino sono 1, 6. Ah no, sono 6. Ah, ok, andiamo, raga. Si è fatta una certa. 14. Sì, sono in vita. No, io mi sono morto. 24. Ti ha appena fatto 10 danni. Sì, ma mi è scaduto l'orso. E sono no, 24. Che comunque questa ne abbiamo fatto 5 danni in croce. Sì, no, l'altra. Beh, in realtà questa non è stata. Aspetta, una, la seconda è full, però. Quella che ha sparato il fulmine. L'altra che ha sparato il fulmine è quasi. No, è morto. Quasi a metà vita. Come? Regà, ok. Sono? Ciao. Ah, perché cazzo? Vabbè, okay, questo a livelli a due livelli, sì, però dopo. Vabbè, è il mio turno. Azione bonus. Ah, orso, voglio Vetsmaster. E basta. Correndo prendo in bocca. Prendo, tu sei a terra, no? Prendo salla e faccio. E continuo giù per le scale. Io lancio una raccolta firme per Vetsmaster. Sono troppo forti. No, vabbè, era ovvio che fossero troppo forti. Sì. Ci torniamo. No, c'era il culo di ucciderla prima, magari. Cioè, poteva giocare. Però quasi. È quasi impossibile questo grado di sfida. Forse con il chierico qualcosa in più potevamo fare sicuramente. No, è impossibile perdere esatto. Il grado 3. Chi se ne fotte se torniamo un'altra volta? Se non ti inseguo. Cosa fai? Sono che inseguo. Sono dei vecchi che non si muovono di un cazzo. Teletrasporto. Magari noi scappiamo fuori, livello fuori. Beh, visto che non avrò fatto tanta strada, perché ho fatto 11. Arrivi al. No, non continuo. Cioè, ok. Sei lì che sali, arrivi all'altezza di quella da dove sei entrata. Vedo che stanno scappando. Vedi un orso che sta correndo giù dalle scale. Allora, giù stava scalando. Allora scendo giù. Ok, scendo giù rapido. Ok. E... non troppo. Giulio, tu sei l'unico che l'ha attaccato. E avevi la larva, l'arma che l'ha tentata. È vero, il mio classico guerriere. Infatti dicevi non è più il classico guerriero. Non sarebbe chiamato assolutamente nulla. Scalo e chi non sa che succede. Ho capito, ma allora alla prima strega io non la potevo toccare perché c'eravate voi davanti, quindi sono arrivato da dietro perché c'era lo e l'ho buttata giù per voi altri. E le altre due non ho mai avuto l'occasione di colpirle. Perché mi hanno praticamente segato e dovevo pensare. Sono riuscito a non avere mai l'occasione di colpirle. No, scherzo, no, è vero, è vero. Sei andato fuori a scalare perché la scala era occupata. Era logico quello che facevi. No, cioè, non avrei colpite comunque. Questo. Vez non avrei colpito mai perché sono stata l'ultima iniziativa e se eravate voi in mezzo. Cosa vieni che faccio? Vieni fuori che luce la spada. No, l'ho usata per scalare. Beh, no, l'ho usata per scalare. No, ma io l'ho estratta la spada, io il disegno l'avevo preparato. Però... Come si... No, è un attrezzo da scalare. Se sei sfuggito qua. E sono lì, accendo una torcia. Tipo, no, lui è tipo fuori dalla porta, cioè prima escono dei fulmini, poi esce la merda. Tu sei nella bocca dell'orso. Cosa fa? Fallito. Ah, no. Tiro. Garrosh. Oddio, vabbè, io posso sul muro le aggiro e me ne vado anch'io. Ho finito incantesimi. Puoi disingaggiarti e buttarti fuori. Sono un palo di... Vabbè, posso fare un round di... E ancora corre furiosamente fuori. No, sì, corro incazzato nel nero. Ah, però volevo curarlo. Chi ha preso lui? Io. No, in bocca all'orso. Disingaggio e... Ciao. Non finisce qui. Ma per il momento può bastare. Dove sperate di fuggire, sciocchi? No, no, no, fuori, chiudo la porta. Ok, allora basta che si sporgono dalla finestra e dicono: oh, no, la finestra chiude lui e stava arrampicando, adesso la becca lui. No, sono andato via, ero prima di voi. Va bene. Giulia lì alla finestra che fa: sono là, colpito. Però hai notato? C'era un po'. No, il punto è che quando li vedo uscire, butto la torcia, così loro devono spegnere la finestra. Ok. Ecco, scusami. Qual è la finestra dove sono vicine loro? Tutta la finestra, quella da qui è scalato. Quattro finestre ad ogni piano. Ognuno di queste. Raga, ognuno in direzione diversa. No, follia pure. Beh, almeno non ci follia, fanno un... È follia. Basta che correte in. Cioè, sì, che non ci apriamo ad esatto, non cioè, state tutti in linea, se state separati. Ma facciamo anche l'indiano. In realtà se stiamo in fila orizzontale, se uno cade, un altro lo può raccogliere e portare con sé. Ah sì, sparano i dardi incantati, non sono già morto, cazzo me ne fotte. Allora, la scena è questa. Siamo tutti in linea, palla di fuoco. Oh. Voi scappate fuori. E si vede la strega. E puff, quella che era scomparsa all'inizio davanti con... con la coda dell'occhio, che è ancora in grado, guardandosi indietro, vede loro che aprono una finestra e si sporgono, già pronte ad assaporare. Tu devi star lì, prenderla. Io ho buttato le torce dentro per fare le fiamme. Assaporare il tiro a segno che faranno su dei bersagli di frente. Tanto dato incantato colpisce automaticamente. Un secondo da attenzione. Che non c'è il gusto del dire, mancherò meno. Però, dunque, appunto, mentre. Butto le torce e poi. Via. Mentre fanno per cominciare a spararvi addosso, vedete che è come se vedessero qualcosa di terrificante. E un Tyrannosaurus Rex. Tornano dentro, chiudono tutte le porte. Quindi stiamo correndo verso una cosa ancora più spaventosa. A un certo punto, come dicevate, mentre siete usciti, vedete puff che rientra la prima che ha Morgantha. Che assapora già il momento in cui vi sta per incenerire tutti. Le sue dita si caricano di elettricità statica. Ti fermo un secondo, devo tirare? No. Come? Fortuna che è una cinematica. Esatto. È una cinematica. Momento cinematico. È una cazzina. Anche perché io sono da un'altra parte rispetto a voi. E all'improvviso l'aria che è davanti a lei, la nebbia che permea tutta questa zona, prende forma di una figura davanti che si frappone. Cazzo, aveva anche il culo che io non vedo questa scena. Adesso, perché... adesso è il conte. È il barone che ci salva il culo. Però dobbiamo andare a cena da lui. Che ha ucciso i miei cavalli. Lei! Io stavo scalando. Io non sono con voi, ragazzi. Sono lui scalatore molto alta. Ho visto il fuoco, pensavo fosse la mia carrozza. Delle vesti molto eleganti, capelli neri lisci tirati indietro, la pelle molto chiara, la figura molto curata. Il prete della chiesa si frappone tra lei e voi e le intima: loro sono miei. Chi ci aiuterà grandemente? Ha detto loro sono miei. Dopo averli bruciato i cavalli, non toccare i miei amici, li ammazzerò io. Quindi dopo averli bruciati i cavalli, la trema di paura, vedete che muta le sue sembianze per diventare un pipistrello e vola via. Ah, sì, lasciandoci comunque davanti alle streghe. Cioè, lui dice questo e se ne va. No, lei. Ah, lei diventa un pipistrello e vola via. Fine della quinta. E lui, ma lui è corporeo o solo? Quindi livelliamo. Posso tirare ora? Livelliamo. No, beh, ti curerà. Beh, curiamo adesso. Ma mentre scappate, no? Allora, la strega se ne va. Ma quanti turni scappa? Mi passi il manuale al quarto livello? No, se succede il turno successivo. Allora adesso non fai uno. Non lo so, possiamo stabilizzare, dobbiamo fare una prova di medicina. Uno di voi, cioè dovete far voi una prova di medicina. No, lo curo. Ah, ce l'hai la cura ferite. Ah, vabbè, allora io. Vez, mi guardi il quarto livello? Com'è che è un D8 più livello? Abbiamo perso, siamo sopravvissuti, non è morto nessuno. Oh, non sono neanche caduto io. Che cazzo? Vittoria totale. Cioè, io che non cado neanche in combattimento è... Una volta che torno al druido faccio, è tutta qui. Questa è tutta la vostra magia. Streghe. Direi che non andiamo dal conte. Direi che non... Dovremmo andare a ringraziarlo. Beh, il conte è qui con noi, quindi parleremo. Esatto, non dobbiamo andare da lui, lui è venuto da noi. Ovviamente le gare era tutta una strategia, era tutto sotto controllo. Ma il mulino non va a fuoco, spengono l'incendio. Però dato che appunto non... È che è un coglione. Si sono rinchiuse dentro e dentro sta cominciando a... Cambiarsi di fumo, sì. Avete visto il... Cioè no, è che non è... Terzo episodio della maledizione di Katka. Detta la fine della Copenaghen. Detta il... E io ridendo scherzando... Piccoli personaggi crescono. Ridendo scherzando sono quello che ha rischiato me. Però... In che senso ridendo e scherzando? Sì. Perché lui va con lo zaino, invece noi andiamo con... Avete sentito, rega? Giù detto, ridendo e scherzando sono quello che ha rischiato meglio. Che ironia. Che ironia. Che ironia. Sono andato a fare una scalata mentre i miei amici combattevano. Erano sui avanti. È l'unica cosa che potessi fare, ragazzi. Paradossalmente avevi anche l'unica arma d'argento. No, no, a parte tutto, era l'unica ironia. Che ironia. Devi dare la sala alla spada d'argento. Che fai furtivi, no? Cioè... Ma l'ha chiesto. Capito? Ma resti una spada d'argento a me. Questo personaggio è molto frustrante. E va bene. Non potevo fare nient'altro, Beth. No, seriamente, non potevo fare nient'altro. No, è proprio niente. No. Rimanevo dietro come te, inchiodato, perché io ero l'ultima iniziativa. Potevo cioè star dentro quando moriva la strega, saliva lì. Non è morta la strega, però. No, quando è caduta la strega potevi star su e andare dalle streghe dietro. No, io ero su. Le streghe sono arrivate, mi hanno portato praticamente a 12 di vita. Vabbè. E sono andato via con 12 di vita, perché sennò allora morivo. Sei scappato, non è che non potevi fare niente. Ho capito, potevo morire, sì, ho capito. È ben diverso però da dire non potevo fare niente, sei scappato. Ok, potevo morire o tornare indietro. No, lui dopo è stato colpito, ma prima... Devi scappare prima, devi cominciare a scalare. Quello vuole dire che sarà anche scappato. Allora. Ma l'ha fatto con grande dignità. Nel senso. Mentre noi siamo scappati era brutta. Sala era solo d'accordo, però è scappato. Sala era praticamente a full vita, la tizia l'ha beccato in combattimento e l'ha portato a 3. Cosa abbiamo imparato da questo? Quando c'è un combattimento, tu scala. Esatto. È la soluzione a tutto. Tu cominci a scalare una parete. L'idea era arrivare da dietro e attaccarle. È quello che ho fatto io, però io posso correre sui muri. Io non posso, quindi sai. No, vabbè, ragazzi. Avete visto il terzo episodio della maledizione di Katta? Non è che posso fare molto altro. Cioè, potevo morire, hai ragione. Sì, però. Sì, sì. Vi auguriamo un buon Natale, delle buone feste e soprattutto di avere Giulio come guerriero nella vostra campagna. sono arrivate e mi hanno sperato 6 dardi incantati. Non so se è meglio questo o l'altro. Vabbè, ma non era meglio. No, è comunque meglio questo, anche se ogni tanto impazzisce. Meglio questo? Ma anche questo scontro non potevo nell'altra campagna di. Ma i regali avevano avuto sfiga che avevano con le scale, cioè. Che no, fa una no, beh, te cazzo. E one shot alla gente. Vabbè, ma quello è anche perché il livello è diverso. Sì. No, perché io sono tipo. Vabbè, che livello è? Che livello sei di là? Perché ognuno ha il proprio livello. Sì, nell'altra campagna, sì, quindi. Sì, voi due sì, rispetto agli altri sì. Ma one shotavo la gente lo stesso. Va bene, ragazzi. Alle prossime buone feste. Bene, buon Natale. Ovviamente queste prove hanno una marea di vita che ho fatto che c'è una cosa delle carte. Sì, perché c'è un danno allucinante. Cioè, con. Praticamente facendo 1/2 attacchi ognuno di noi abbiamo fatto metà vita. Vabbè, una a parte Giulio, ovviamente. Poi comunque non è una cassa naturale. Abbiamo fatto degli uno in una quantità allucinante. Vabbè, sono comunque sì, una di quelle a GS5. Sai cosa alla fine mi viene da dire? Che avete usato per l'inspiration dandola a me. Io avevo detto di non... Io ve l'avevo detto di non dare. Ragazzi, abbiamo comunque affrontato tre tizie che hanno 116.